È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Cercasi apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine illibata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Mi sembra fatta apposta questa canzone, una cosa incredibile, caro Parenzo. Ma sei, ma come, è un talento musicale pazzesco, come fai a sapere? No, ma io non so niente, sono i miei collaboratori su a Milano, noi siamo sempre qui a Strasburgo a trovarmi queste. Carmen Consoli, chi l'ha scritta non lo so, la canta Carmen Consoli. Che meraviglia! E i fatti di oggi sono, di queste settimane, di questi mesi. Cercasi badante. Io non so se sia vero, però leggo per esempio dal Corriere della Sera, Emilio Fede che parla, qui non si sta parlando di intercettazioni, si parla di indiscrezioni, anzi in questo caso dei virgolettati. Sono arrivato a casa, prosegue Fede nel suo racconto dell'altra notte, mi sono accasciato su una poltrona col cappotto e così mi sono risvegliato il mattino dopo e col cappotto. E mi sono chiesto, che faccio? È stato il momento più drammatico della mia vita. Basta che sia buona. Lui conosce la vicenda, Berlusconi, non avrà il minimo dubbio sul mio conto. Si sta parlando della famosa stecca, diciamo, no? Mi butterei dalla finestra se capissi che Berlusconi pensa una cosa del genere di me. Ma non è possibile, perché avrei dovuto lucrare? A me Silvio presterebbe qualunque cifra se ne avessi bisogno. Potrei chiedergli tutti i soldi che voglia e lui me li darebbe. Se ho sentito Berlusconi per spiegargli? No. Con tutto questo casino, e chi usa più il telefono? Addirittura, apocalittico il direttore. E invece su Berlusconi, sempre nel Corriere della Sera, un articolo di Marco Galluzzo, leggo, in realtà è l'agenzia Dire. Il capo del governo confessa ai suoi interlocutori di non dormire da 3 giorni, di passare tutto il tempo con i suoi avvocati, di temere per le sorti della propria famiglia, di essere rimasto turbato da una visita di Veronica ad Arcore per prendere alcune cose. Non mi ha nemmeno salutato. Oggi che c'è di nuovo però sul sexy scandal, sul Ruby scandal, è proprio Ruby che parla, non a caso, a Calispera, trasmissione che andrà in onda questa sera su Canale 5, condotta da Antonio Signorini, e guarda, da Alfonso Signorini, e dice, mai fatto sesso, mai, il premier, non mai. Mi ha mai toccato, mai. Con un dito e poi tante altre cose, sono state violentate a 9 anni, da 2 zii, eccetera, eccetera. E sulla frase di ieri di Berlusconi, mi diverto come un matto, che fra poco sentiremo, Fini attacca, Berlusconi è l'unico che si diverte, ma siamo nel campo della normalità. Berlusconi ieri ai giornalisti, via. Sì, mi sto divertendo. È tranquillo, è tranquillo. Assolutamente, sereno. Assolutamente, ciao. Ma cosa è l'opposizione che le chiede di dimettersi, Presidente? Non faccio gestacci in pubblico. Erano feste normali, non c'è nessuna concussione. Su quello che è successo in casa mia ho già avuto modo di dire, erano feste con 24, 20, 30 persone, quindi con una molteplicità di presenze, di camerieri, di musicisti, di cantanti, di uomini della scorta, per cui non è mai successo nulla che non potesse succedere in casa mia, e quindi tutto il resto non esiste. Il reato di concussione è inesistente perché non c'è un concusso. La canzone è perfetta, più la sento e più mi sembra ottantenne miliardario. Non vado in tribunale, perché una delle questioni che si pone in queste ore è, sì, va o non va in tribunale. La Russa oggi ha detto, prima di andarci ci penserei 28 volte. Perché non 30 a questo punto? Perché, sì, non 50? 28? Perché 28? Perché 28? Mi sarà venuto così. Comunque Berlusconi non ha nessuna intenzione di andare in tribunale, no. Quello mi sembra evidente anche dalla frase pronunciata ieri. I miei avvocati oggi, tutti gli avvocati, hanno detto che non essendoci la competenza di Milano, non è logico che il Premier vada in tribunale. Ma poi non credo, perché quando ci sarà l'intervento del Parlamento, il procedimento sarà tolto alla Procura di Milano e sarà dato al Tribunale dei Ministri. e qui si trasforma in avvocato. Vabbè, che ne sa lui, è sicuro che andrà a finire in questo modo. Direi di farti sentire un'altra canzone per quello che riguarda un tema che viene sollevato in queste ore, che è quello della generosità di Berlusconi. Tema che secondo me non c'entra assolutamente nulla. Ogni tanto, diciamo, i difensori, le persone vicine a Berlusconi parlano della questione della generosità. Cioè, Berlusconi farebbe tutti questi regali perché è generoso. Vabbè. E non in cambio di sesso e dunque eccetera eccetera. Gaber. La mia vita di ogni giorno, è preoccuparmi di ciò che è intorno. Sono sensibile e umano, probabilmente sono il più buono. Ho dentro il cuore un affetto vero per i bambini, del mondo intero. Ma la sai a memoria? Come no, Gabe, è il potere dei più buoni. Spinelli, quello che viene considerato, non dico il cassiere, adesso esagero, perché poi durante Tangentopoli se ne dicevano di tutti i colori, l'uomo di fiducia di Berlusconi. L'uomo di fiducia di Berlusconi, quello che dà i soldi, eccetera. Sentite che dice: abbiamo aiutato tante persone. Aiuti a persone che avevano dei problemi. Uno che da lì fuori, lo capisco che non può saperlo, ma non ha idea di quante persone noi abbiamo sempre aiutato. E l'accoglienza. E vabbè, questo dice Spinelli: non avete idea di quante persone abbiamo aiutato, ma effettivamente questa cosa è vera. Berlusconi aiuta un sacco di persone. Non c'entra con la questione, no, di cui stiamo parlando. No, con la palpazione, con le ipotesi di reato che vengono contestati, la generosità oppure sì, non ha nulla a che fare. Oppure sì, è un elemento di difesa, non lo so. Intanto è con noi. Conosce Gaber, sì. Chi non conosce Gaber? È il Clemente Mastella. Buonasera a voi. Buonasera a Strasburgo. Febbricitante. Però ma se sta noi, la ringraziamo. Con voi alla fine spero di stare un po' meglio. Che bello, con questo gessato meraviglioso. Gessato grigio. Come si dice a Napoli, anche la miseria vuole il suo sfogo. Quindi sta piagna miseria. Miseria proprio no, però insomma. Dati i tempi, allora un po' di sfogo si trova, non si trova è male. Un po' in difficoltà. No, difficoltà proprio no, ma insomma non Mastella è che... difficoltà è un po'. Difficoltà un... è un po'. Vabbè, difficoltà sono curioso. Tante, però insomma no. Rispetto a chi sta peggio di me. Operaio. E quelli dalle mie parti che lavorano proprio, che debbono dire? A me l'operaio piglia 1200-1300, e quello che da me non lavora, che fa il giorno che non lavora? Chi lo difende? Chi lo difende? Ghedini no. Ghedini non credo. Ghedini no. Senta, ma io qua ho sentito alcuni esponenti cattolici del Partito Popolare Europeo, anche vicini a Berlusconi, essere un po' imbarazzati da questa cosa qui. Cioè, qualcuno comincia già a dire: io faccio sì, insomma, il garantismo, le cose, eccetera, però io conduco uno stile di vita diverso. Ecco, c'è un po' di imbarazzo nel mondo cattolico. Lei, che è cattolico, eccetera, per quello che viene fuori, è imbarazzato oppure no? Sai, il cattolico è peccatore, quindi come capito, tale, però, così è comodo, peccatore, eh? Cattolico è peccatore. Mundi, no, insomma, no. Ci credo o non ci crede questi festini? Al cattolicesimo. Questi festini hardcore di Berlusconi. Io credo a Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quella è la cosa in cui credo, quindi come cattolico credo in questo. È d'accordo. Tutto il resto è in dubbio. Okay, d'accordo, però... c'è un po' di contraddizione. Stanotte ho sognato di essere una farfalla. Chi? Ma che dice? E all'indomani, quando mi sono svegliato, non sapevo se ero un uomo che sognava di essere una farfalla o una farfalla che sognava di essere un uomo. Ma che dice? Ma queste cose che vedo, che leggo, sono il sogno di una farfalla o il sogno di un uomo? Non si capisce nulla, è tale il casino. Ma no, e si quindi capisce... come tale, è un casino incredibile. Ma, cioè, ma lei sogna di fare questo tipo di vita che fa Berlusconi o no? Oppure no? No, sogno proprio no, insomma. Però... nessuno è senza peccato, però insomma. Poi non lo so io, perché facevano là, le stalle, voi lei ci crede a quelle carte? Io no? Non sono stato a quelle carte. Come? Ci crede o no? E vediamo le carte, vediamo se cantano. Le stanno guardando cante. Tutti queste carte. Vediamo se le carte cantano oppure no. Come si dice dalla nostra parte? La carta canta. Vediamo se la carta canta oppure non canta. Se invece è stonata o non è stonata. Questo vedremo nei prossimi giorni. Se la carta canta o la carta è stonata. Per scuola si deve dimettere? Seriamente? Se ha la maggioranza che lo sostiene, credo che non si dimetta. Non... ma non c'è una questione di incompatibilità del ruolo con quello che sta uscendo fuori, proprio della carica? Dipende, vediamo. Se, sul piano della serietà, vediamo quello che accade, quello che viene fuori. Diciamo sul piano finale di quello che sarà l'esito di questi riscontri. Cioè, è sempre giusto ascoltare l'una e l'altra versione, questa è la mia opinione. Ma come puoi incontrare, che so io, un incontro in Vaticano? No, vediamo, ce ne sarà nei prossimi anni qualche incontro con uomini del Vaticano. E con che faccia potrebbe presentarsi Berlusconi in Vaticano, in chiesa, con uomini del cattolicesimo? Cioè, si apre un problema di questo tipo con uomini di chiesa? Uscito, oppure no, secondo te? Bene. Al di là degli incontri, un qualche imbarazzo, se le cose sono vere, un qualche imbarazzo si apre, questo mi pare evidente. Se bisogna vedere se le cose sono vere, non sono vere, se sono reali, se c'è il supporto di riscontri effettivi. Questo è, ci sono tanti sé, insomma, che possono portare a indicazioni successive, questo mi pare abbastanza evidente. Sì, ma al di là delle prove e della conclusione giudiziaria del caso, c'è qualcosa che ormai ha a che fare con la compatibilità di Berlusconi con quella carica, dato il modo in cui conduce la sua vita privata? Se, voglio dire, c'è un problema. Da questo punto di vista, insomma, i casi sono clamorosi un po' dovunque, da Clinton ai Kennedy, cioè tanti sono i casi, nessuno sa quello che viene sotto le lenzuola la sera. Ma loro non erano del PPE, non, non erano del Partito Popolare Europeo. Beh, Clinton era un cristiano metodista, mi pare, e Kennedy era un cattolico. Sì, però non diceva di voler difendere i valori cattolici nella società in politica, cioè... Se un democristiano uno li difende nella società, dopodiché a casa sua va quello che gli pare. La società è una cosa e poi invece è un'altra parte. È una cosa pazzesca, detta così. La società è la società, non è così, no. Berlusconi. No, non lo so. Quindi bisogna combattere la prostituzione. Io non sono magistrato, non sono uno che. No, questo è poi sono un perdonista a questo punto di vista. Dunque, lei da cattolico, se Berlusconi avesse fatto quelle cose, lo perdonerebbe. Ma se lui chiedesse il perdono, cioè il perdono significa anche un non le rifà dopo, quindi questo mi pare complicato. Cioè, dipende da lui, non dipende da me, non è che ognuno... Senti, una cosa prima del traffico. C'era il traffico, perché c'è un traffico in cui arrivano... In Italia, a Roma. In cui mi sperdessi tra fanciulle varie, quindi... Questo lo sapevo. Ma dai magistrati ci dovrebbe andare a chiarire le cose oppure no? Perché una cosa... o sono strategie difensive che si regola come vuole? Sono strategie difensive. Io sono andato... pur avendo chiarito, non ho chiarito. Mi sembra che qualcuno dice io ci penserei tante volte prima di andarci, anche lei ci penserebbe tante volte. No, io sono andato, cioè, ho sempre scelto una linea che lui dovrebbe andare al processo. Lui dovrebbe andare. Dal mio punto di vista, io sono andato, ecco, la mia linea difensiva è stata quella di andare al processo. Dunque lei consiglia a Berlusconi di andare? A testa alta sono andato a difendermi, a dire mi dispiace molto, dopodiché loro hanno mantenuto la loro carica investigativa contro, e pazienza, voglio dire, andiamo avanti. Questa è la mia opinione. Traffico, torniamo subito. Cerca si apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Siamo qui sempre a Strasburgo, Parlamento Europeo, con Clemente Mastella, europarlamentare del PDL, ex ministro della giustizia, in grande forma, cerca di buttarla così in caciara, va bene, in caciara, normale. Ma le, noi siamo la caciara. Tutto questo è una caciara, tutto una grandissima caciara. Senta, ma vedo in giro incredibili autogol, ipocrisie varie dall'altro lato. Cioè, per esempio? Tutta una, che ipocrisie? Tutto è... Vedo tante anche ipocrisia, questa è la verità. Non entro nella vicenda in sé, cioè dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista anche un po' politico, eccetera. Insomma, è drammaticamente complessa, questo mi pare evidente. Quindi... Però, insomma, lei quando le ho chiesto se Berlusconi si deve dimettere o no, ha detto: vediamo come si evolve la vicenda. Deve decidere il Parlamento. No, ma quella è una scelta sua. Mi pare ovvio che, insomma, nessuno a cuor leggero decida di dimettersi, soprattutto se magari dal suo punto di vista ritiene che non ci siano le condizioni, le ragioni neppure giudiziarie. Ma c'è una persecuzione, come dice lui, da parte di alcuni magistrati, secondo lei? Ma insomma, è una vicenda un po' delicata, dice la verità. C'è una lunga guerra che è iniziata tanti anni fa, che in parte continua, a volte e questo ci è un capitolo che... di questa guerra? Ma probabilmente sarà anche un capitolo, cioè non lo so. Insomma, ci sono tutti gli elementi. Poi il problema è anche magari che uno deve tentare di evitare di cadere far di tutto per evitare. Dopodiché, detto questo, cioè avrebbe dovuto essere più discreto. No, non lo so se, sa, la discrezione è un fatto di natura personale, cioè se non tocca elementi di natura giudiziaria beh, però la carica di Presidente del Consiglio no, c'è anche un tipo, cioè, di responsabilità, dire, ognuno vive la sua vita diciamo, infatti in un certo lei non modo, fa la stessa vita di Berlusconi. No, pur essendo uno, insomma, anch'io ho vissuto vicende, diciamo, notti romane, ma non erano... Cioè? No, voglio, cioè, nel senso, di notte, quando uno arrivava a Roma, era con i parlamentari, con i giorni... Ma non faceva, per l'amor di Dio... No, appunto, la signora Leonardo, ma avrebbe... in ascolto. No. Magari ci ascolta, la ripeto. No, signora Leonardo lei... è venuta una volta, è arrivata... A una festa? A una festa no, una festa io. Ma okay. Mai è andato lei, no, mai è andato ad Arco, una festa? No, assolutamente no. A Cepanoli fare festa. Sono andato soltanto una volta ad Arcore, io quando era il 94, e mi ricordo ancora che andammo io, Casini e D'Onofrio, due tirchi più di me, e io pagai 100.000 lire per dall'Inate fino ad Arcore, quindi questo mi ricordo quando era il periodo di taxi, che facevano del taxi, sì, che pagavano 100.000 lire. Casini e D'Onofrio e io, e pagai io. Casini e D'Onofrio, due tirchi tre me, due tirchi. Due tirchi più ma com'è andato? Anche non è che scherzo, però lei è tirchio, insomma, un po' così, attento. Loro tirchissimi. Poi a Civicchia ci ho pagato io. Ma com'è andato? C'è dovuto il tassista, ha detto: "Onorevole, so 100 euro. Vi siete guardati tutti? No, 100.000 lire. 100.000 lire, scusa. Sì, sì. Si sono guardati, vi siete guardati no, tutti e tre? No, sono scesi, sono rimasto in macchina e quindi ho pagato. Sì, l'unico festa. C'è Casini, no, ha detto, vadi avanti lei, no, Mastella. Sì, quindi quello... Senta, ha pagato quello più meridionale, al solito. Paga quello più meridionale, quindi ho pagato io. Ma c'è una via d'uscita? Per esempio qualcuno ha detto, Berlusconi a un certo punto, chi era? Ha detto Formica, vecchia volpe della politica. Ah, Rino Formica. Berlusconi, senatore a vita. Ci sono le condizioni per una cosa di questo tipo? No, cioè, potrebbe essere una soluzione, via d'uscita. No, exit strategy. Mi pare che non mi pare che sia questa. Cioè, ma vede, Berlusconi è, come ho detto io, Superman dal suo punto di vista. Cioè, lui, Superman, è l'eroe che muore, ma non cede. Cioè, non è una flessibilità da questo punto di vista. Dunque, non cederà mai in questa vicenda. Secondo me no. Cioè, quando dicono, sento dire in questi giorni, mettiamo un altro al posto di Berlusconi. A parte il fatto che il berlusconismo e Berlusconi si identificano, quando non c'è più Berlusconi non c'è manco più il berlusconismo, cioè sarà una stagione politica completamente diversa, sì. Che va, la mia opinione è che inizia ad esserci questa stagione, perché dopo tanti anni, sì, come dire, una forma di usura, e c'è, questa vicenda, cioè, accelera l'uscita dal berlusconismo, non è l'uscita, cioè accelera o perlomeno ipotizza in maniera un po' più anticipata di altre la fine la di una stagione. Una stagione che, insomma, che tutto sommato ha chiari scuri. Questo è interessante. Questa vicenda può accelerare la fine di una stagione. Potrebbe accelerare la fine di una stagione. Questo dipende da quali sono i riscontri, quali sono i dati finali, quali sono le cose. Cioè, insomma, tutto questo è tutto da verificare. Mi pare evidente da questo punto di vista, da parte dell'Azza ci saranno cannoneggiamenti a oltranza. Non è che... Ma lei che consiglio, dato che nelle questioni giudiziarie lei, insomma, cioè, è entrato e come, no? Che consiglio darebbe? Ci sono entrato, non perché avevo... No, vabbè. Era divertente, cioè non è come un caso. Quello non è divertente inventare la vicenda Berlusconi giudiziaria. Dice che si diverte come un matto. No, io la vicenda giudiziaria mica mi diverto. No, Berlusconi cioè, dice che si sta divertendo come un matto. No. Non lo so, cioè ognuno vede le cose. Ma che consiglio darebbe a Berlusconi? Resistere? Io nel momento in cui ho avuto vicende giudiziarie per un anno sono entrato in una sorta di depressione, non mi sono mosso da casa, non uscivo, tranne qualche... Cioè ognuno può reagisce come reagisce, in questo lo invidio, a questo punto di vista. Io no, cioè per cose che ritenevo ingiuste, ritengo ingiustissime nei miei riguardi, a questo punto di vista. Sì, cioè sì. Le mie vicende sono... Pensi che io debbo rispondere una segnalazione su 600 segnalati all'ARPAC famoso, quest'ARPAC di Napoli. Sì. Tutti hanno segnalato Bassolino, De Miti, Italia dei Valori, tutti. L'unico a cui si contesti il reato penale per un co-co-co, capito? Con un co-co-co, c'è cioè uno per tre mesi sotto a me. Cioè, veramente, allora tu dici... Altro che prostituzione minorile. Non ne parliamo proprio. È inutile. È sbagliata la segnalazione. È veramente un problema. Però pazienza, con sanità, vado avanti. Insomma. Senta, dunque, resiste il suo consiglio, no? O è quello che succederà? Perché Berlusconi la conosce. Ma è ovvio che lui si metterà sull'idea di resistere. L'idea di cedere il passo a un altro, per quanto sia il suo amico, no. È la stessa cosa di come mi ricordo in questo caso qua. Quando ci fu il governo nel 94 con Berlusconi, mi disse a un certo punto: sai, tu sei troppo democristiano, un po' vecchio. Tu non al governo, dammi il tuo migliore amico, ma non puoi dare tu al governo, mi disse. È 94. Poi io, allora dissi: guardi, il miglior amico di me stesso sono io, o mettimi al governo, se al governo non lo fai, e quindi fatti entrare al governo, cioè per dire insomma di come sei. In questo caso dire a Berlusconi metti il tuo miglior amico, metti Letta, altro, come dici il miglior amico me sono io mi chiamo Letta, non mi chiamo, io mi chiamo Letta, mi chiamo tutto, non comprendo in me stesso tutti, quindi non credo faccia un passo indietro a questo punto di vista. Senta, ma per chiudere, ma alla storia di Berlusconi fidanzato lei ci crede? Non lo so, cioè... O è una cosa inventata dai legali in questi giorni da buttarla? Ma l'ha sentito? Non lo so, no, non ho sentito. Non l'ha sentito? No, no, fidanzato, non lo so, sta parola fidanzato, no, mo dice alla verità, io sono un po' quello che vengo a un demo in cui dice uno tiene l'amante, mo invece dice fidanzato, quindi sono un po' le cose un po' strane. Sono due categorie diverse, no? Ma fidanzato, insomma, non è, dice uno verso fidanzato, dice ma quella era sposata, ma insomma uno dice sempre tiene l'amante. Non ci crede, l'amante, non ci crede, non ci crede, non ci crede. Non lo so, non la conosco a fidanzato, se la presenta dirò complimenti. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie, a dopo, Giornale Radio. Grazie a Mastella. Eccoci qui, caro Parenzo, direttorissimo, da una discussione molto intensa con l'onorevole Mastella, anche fuori onda. Sono le 19:19 qui a Strasburgo, Parlamento Europeo, 800 24 00 24. Onorevole Mastella, che prima in trasmissione, noi naturalmente non riveleremo mai quello che ci ha detto fuori mai onda, ci ha detto però una cosa interessante. Forse si tratta della accelerazione, quello che sta accadendo, di una fase politica che va verso la conclusione, diciamo. Sono che abbastanza quella... costernato. Come costernato? Costernato. Da che cosa sei? Perché costernato? A sentire tutti gli ospiti che tu hai invitato in questi due giorni di Strasburgo, sì? Sembra che non sia successo niente. Beh, no, no, non è vero. Sembra, ma sì, davvero. Beh. Dice, ma no, ma vabbè, ma in fondo, ma dov'è il reato? Ma sono delle feste, ma no, non no, si capisce. No, no, no. Cioè... Si distingue tra l'aspetto politico e poi quello che potrebbe essere l'esito giudiziario, molto lontano della storia. Andiamo a sentire però come titola questa sera il nostro TG3. Terzo polo all'attacco, Berlusconi lasci, Fini è il solo a ridere delle sue vicende, il PDL fa quadrato e prende tempo in giunta, nuovo videomessaggio del Premier. Bersani, il Premier ha tradito la Costituzione, tolga il paese dall'imbarazzo, il vicepresidente del CSM Vietti difende i PM di Milano. L'altra verità di Rubi, mai sesso con il Premier, la giovane si confessa nella trasmissione di Signorini, da bambina dice ho subito abusi da due zii. Tante ragazze in gara per conquistare il ruolo di preferita, intascare di più, poi le intermediazioni di Fede e Mora, anche questo nelle carte di Milano. La russa alla camera, Sanna uccisa da un infiltrato, restare in Afghanistan dolorosamente necessario, l'opposizione missione da rivedere. Storica visita del leader cinese Hu Jintao a Washington, Obama, i paesi prosperano quando vengono difesi i diritti universali. Allarme Istat, in Italia né studio né lavoro per 2 milioni di giovani, record europeo, e non ha un posto quasi una donna su tre. Cercasi apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine illibata, cercasi, donna usata, già rodata, cercasi. Mi riferiscono dall'Italia, sì. Qui noi siamo nel nord dell'Europa, nel nord dell'Europa. Come, scusi? Quindi vicini alla Padania. Ancora questa Padania. Certo. Io qui rappresento ufficialmente il governo. Ma lo sappiamo, della Padania, lo provvisorio. Provvisorio, però, sempre detto con massimo rispetto di tutte le autorità, certo, civili, penali, e certo, dell'Italia. Ma se c'è da trattare o da parlare con i colleghi Berlusconi e Napolitano, io come colleghi, rappresentano, scusi, come si rappresentano. Come collega, cioè, per lei Berlusconi è un collega di un altro paese, di un paese vicino. Ma certo, Ma certo, non lo dica come se fosse vero, Borghezio. Ma scusi, Borghezio. Ma scusi, l'avete consultata la navicella del Parlamento? Sì, ogni volta ci ripetiamo. Ogni volta con sta navicella. La navicella è sempre la navicella. D'accordo, cioè, secondo lei Berlusconi e Napolitano sono dei suoi dirimpettai, colleghi. Il presidente Napolitano è presidente e capo di Stato. Io modestamente sono solo capo di governo. Capo di governo. E quindi, però, insomma, siamo sempre colleghi in un G21. Con la Padania, collega, direi che molto volentieri provvisoriamente rappresenta. Però Napolitano per lei cosa, per lei cosa rappresenta? Il capo dello Stato delle due Sicilie, dello Stato nel quale provvisoriamente apparteniamo, al quale provvisoriamente apparteniamo, persona seria, grande galantuomo, in un domani capo di uno Stato vicino col quale noi cercheremo di avere delle ottime relazioni, perché i vicini poi uno non se li sceglie, se li trova, e quindi sa com'è. Bisogna pur tenere dei buoni rapporti. Ah, beh, cioè, non c'è dubbio, si potrebbe anche muovere guerra. Prima si muove la guerra ogni tanto, ma non è più periodo. No. Se si trattasse di dover decidere su delle cose importanti, anche fastidiose, io penso che una buona discussione, eventualmente anche tramite l'ONU. Tramite, cioè, l'ONU da intermediario potrebbe fare nel futuro, da intermediario tra l'Italia, come lo chiamerebbe lei lo Stato? La Padania. No, la Padania, d'accordo. La Padania. Che potrebbe essere una repubblica o anche una monarchia, perché io lo vedrei bene. Con Bossi Re, questo l'abbiamo già detto. E poi abbiamo, non dimentichiamo che l'unico simbolo, anche qui nel 150esimo, questa cosa è sfuggita. L'unico simbolo tradizionale, antico, incontestabile della sovranità, ce l'abbiamo noi, e non è mica colpa mia, ce l'abbiamo noi. Chi in Padania è la corona di ferro ed è a Monza. Cos'è Bossi lo incoronerebbe con la corona di ferro. La corona di ferro. Lei Bossi, quando ci sarà la proclamazione della Padania, eccetera eccetera, lo incoronerebbe. Io penso che si incoronerà da solo, e comunque se ci sarà una cerimonia, anche, come ci sarà, immagino, ma come per Carlo Magno. Io penso che Carlo Magno addirittura, una cosa pazzesca, perché pensi cose che possono accadere. La storia è storia. Non si può sfuggire a questa, esatto, l'indipendenza del nord ha radici storiche antichissime. Parliamo dei Longobardi, parliamo la corona ferrea, il simbolo è a Monza, mica l'ha mai portato a Roma. Ma lei sa che la signorina Ruby Rubacuori risiede in Padania, no? E lì, ma guardi, dei fatti di cui si narra in questi giorni hanno per protagonista la pulzella. Provvisoriamente in Padania, perché mi pare che la residenza anagrafica del ceppo familiare sia Messina, e d'altronde lì stava benissimo. Cioè, fosse per lei sarebbe lì doveva rimanere a Messina. Ma certo, sarebbe stato meglio per tutti, anche per il nostro presidente. Mi spieghi bene questa cosa. Ma sa, sono, diciamo, persone un po' così, personaggi, come dire, un po' strumentalizzabili, un po'. Noi nel nord, e soprattutto in Piemonte e Lombardia, abbiamo un'espressione simpatica, non offensiva, una lingera. Si usa anche per gli uomini, una persona leggera, si usa anche per gli uomini. Ma non è stato leggero anche Berlusconi? Non è stato leggero anche perché lei che consiglio darebbe dal profondo nord, da leghista che sente l'umore? Ma c'è un solo consiglio da dare, anche, diciamo, da leghista, anche con la simpatia, senza una vera ironia, anche di fronte ad attacchi, anche a manovre giudiziarie molto discutibili. È presidente, tieni duro, presidente. Tieni duro. Ma in che senso? Io lo dico, faccio un radiomessaggio. Ma il messaggio è questo, cioè, signor Presidente, lo faccio un attacco messaggio giudiziario, perché ci sono delle acquisizioni, anche delle procedure, a mio avviso, molto dubbie, perché da che mondo è mondo, insomma, i capi di governo, i ministri vengono giudicati. Gli eventuali reati, le ipotesi di reato sono trattate da un tribunale dei ministri, quindi non si capisce. Presidente Endur, cioè non mollare. Tenga duro, sai che potrebbe essere un po' equivocata come cosa. Ma perché deve essere equivocata? Leggermente equivocata per in questo quale contesto. Ma, tenga duro. Omnia munda mundis. Io l'ho detto in questo caso? In questo caso, presidente, non defletta, continui a fare quello che ha fatto, rimanga nella sua posizione decisa. Resista e tenga duro perché cambiare un po' la vita privata, cambiare la vita duro privata? I duri cominciano a giocare. Ma più duro di così mi pare, però eccessivo, no? Cambiare la vita privata, questi sono valutazioni che attengono alla sfera personale, noi siamo rispettosi. Ma per un cattolico padano, Borghezzi, un cattolico padano, come lei dice sempre, sono cattolico padano, padania cristiana, ma è musulmana. Ma certo, però... ma mica è diventato musulmano. Diciamo che è meglio frequentare sempre persone, diciamo, di religione, della nostra religione, però. Dunque era meglio non frequentare Rudy, tutto sommato, Rudy. Ma insomma. Marocchina. Diciamo che è meglio forse concentrare meglio le proprie attenzioni su persone più affidabili, ecco. Perché in generale. Però può succedere. Vabbè, che sono delle donne, diciamo, bellissime, ad esempio, degli altri. No, paesi, ma è giustissimo. Però sa, noi vecchi padani tradizionalisti siamo per moglie e boi dei paesi tuoi, anche moglie e da fini. Quindi sì, Emilia. Comunque era meglio evitare, ma ci sono brasiliane, tante bulgare che comunque vanno a queste feste. Io ho l'impressione che il presidente tenga duro. Conoscendolo, mi sa che tiene duro. Va bene, allora, Carla da Roma, 800 24 00 24. Come avete capito, è con noi qui Mario Borghezzi, esponente della Lega Nord. Padania, perché nello statuto c'è scritto Padania, che ha come statuto, come obiettivo, l'indipendenza. Di qui vogliamo ricordare naturalmente la frase mitica pronunciata qualche giorno fa qui proprio alla Zanzara a proposito della vicenda Battisti, di cui oggi c'è stato un importante appuntamento, devo dire molto commovente, qui al Parlamento Europeo, sì, con le vittime di Battisti. Apriamo una parentesi di assoluta serietà, quindi. No, non c'è da aprire nessuna parentesi, però lei ha detto una cosa la settimana scorsa qui alla Zanzara, due settimane fa, a proposito di Battisti, molto chiara, che sentiremo fra poco, e via. Borghezio? Borghezio su Battisti? No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. Non era riferito al caso Battisti. Era riferito al caso Battisti in questo caso. Sì, il fatto che l'Italia non è riuscita a fare abbastanza, perché non ha un ruolo internazionale. Ma non l'avevo riferito al caso Battisti. Sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì. Comunque, Borsa, torniamo dopo. 800 24 0024 con Carla da Roma. Cerca, si apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Siamo qui, sempre da Strasburgo, 19.36, questa è la Zanzara, 800 24 0024, Giuseppe Cruciani come al solito alla conduzione, accanto a me David Parenzo, eccala, e Mario Borghezio, europarlamentare, sì, che questa volta deve Lega, dire che i parlamentari del nostro paese hanno fatto una bella figura, perché attorno ai parenti delle vittime dei casi Battisti eravamo in molti, tra l'altro 4-5 della Lega, e quindi una bella rappresentanza di parlamentari del nostro paese, che fa ben sperare sulla presenza che ci sarà giovedì. Dal PD alla Lega, tutti presenti. Certo. PD, Lega, sì, PD, anche perché una delle volte in cui il Parlamento Europeo si è espresso sul caso Battisti non c'era nessuno qua, perché giovedì che succede? Partono tutti qua. Ma di giovedì è un po' difficile trovare qualcuno che si fermi. Io spero veramente che giovedì replicheremo con questa buona figura di oggi, con il voto, tanto più che qualcuno ha cercato di, in apertura dei lavori, e cercò di rinviare sine die questo importante voto. Invece noi lo vogliamo il gruppo dei comunisti europei, c'era la signora Carla da Roma che voleva intervenire. La signora Carla da Roma che voleva intervenire. 800 24 00 24. Carla da Roma, Borghezio. Carla da Roma, vabbè, nessuno è perfetto. Da Roma, sono esageri. Signora Carla, buonasera, signora Carla. Eccomi qua, pronto. Dica. Allora, io volevo esprimere la mia idea. Cioè, io penso che tutte le domande che vengono poste ai vari parlamentari, premesso io sono orientata a destra, probabilmente prima, adesso sono molto confusa. Si orienti verso la Lega. Non rispondo. E volevo dire che a mio avviso sono tutte domande inutili che vengono poste secondo appunto la domanda. Ma a chi? Ai vari parlamentari, a tutti quelli magari del PDL orientati a destra, eccetera, eccetera, tutti quei signori, insomma, tutti quelli che fanno parte più o meno della corte di Berlusconi. Io credo che nessuno mai potrà dire effettivamente quello che pensa. Perché sono tutti condizionati da che cosa, mi scusi? Tutti condizionati, chi in un modo, chi in un altro, o il posto, o il... Cioè, secondo lei nessuno si esprime mai, liberamente? Nessuno mai potrà mai. Ho capito, questa è una cosa interessante. Allora, vi devo però riferire di alcune cose che ha detto Berlusconi molto importanti negli ultimi minuti sulla vicenda di Ruby. Violati i principi costituzionali. Mezzi da inchiesta mafia o camorra. Ancora, andrei dai PM di Milano, ma Milano non ha competenza, cioè andrei dai PM ma Milano non ha competenza, secondo lui, Berlusconi. Infatti non lo decide Berlusconi. Poi mai e poi mai rapporti sessuali con Ruby, mai. L'aveva già detto, processo subito ma con giudici super partes. Ma chi sono i giudici super partes? Anche qui è strano perché naturalmente ci sono delle procedure che dicono chi deve giudicare o meno, poi ci sono i ricorsi, la competenza eccetera eccetera. Nulla. Beh, di cui è un capo di governo, forse la competenza è del Tribunale dei Ministri. E quello è un aspetto su cui si potrebbe riflettere, si potrebbe aprire un contenzioso. Nulla di cui vergognarmi, ma attacco dei PM, ci vuole una riforma della giustizia contro i PM politicizzati. Questa è verità sacrosanta. E poi ancora, sempre Berlusconi, contro testimoni, violenza indegna da punire, questo dice Berlusconi. Ma che tribunale si immagina per sé Berlusconi, secondo lei, Borghese? Ma questo ovviamente bisogna chiederlo a lui. Io penso che che questa vicenda abbia il fumus persecutionis, nel senso che effettivamente, oggettivamente, un dispiegamento di indagini giudiziarie così ampio e costoso per tutti noi contribuenti per questa situazione appare un po' singolare. Però su Radio Padania ogni tanto sento gli ascoltatori che sono avvelenati con Berlusconi, con questa situazione che si è creata, con questi scandali. C'è la base leghista, mi sembra molto in fermento. Il cuore popolare del nostro elettorato è abituato a giudicare e a parlare anche con una certa libertà. Appunto, allora... Io do un giudizio politico e questo, quindi abbiamo altre responsabilità diverse. Sono tra l'altro anche un avvocato, sono convintamente garantista e sono una vittima di un reato che aspetta da oltre 5 anni che i miei aggressori si cominci, non dico con questa frenesia, questo dispiego, ma almeno non so, chiamarli, fargli una romanzina, dirgli ma bravi ragazzi, in fondo ricordatevi che anche Borghezio aveva diritto di vivere, non era il caso di tentare di buttarlo giù dal treno. Una bella romanzina, ecco, non si pretende una condanna, non si pretende uno scappellottino, non so, un presidente di tribunale che li convoca, gli dà un buffetto. Ma Berlusconi, secondo lei, davvero non l'hanno ancora fatto? Tipo di Torino, tribunale, la magistratura di Torino, non apriamo questa, non è politicizzata, ho capito, non apriamo questa parentesi, di non trovare l'argomento, il momento, c'è l'argomento. Senta un attimo, ma Berlusconi, perché quando io ho capeggiato una ronda, in un anno e 2 mesi mi ha fatto primo grado, secondo grado e Cassazione. Borghezio, mi scusi un attimo, ma mi dica la verità, Berlusconi cosa immagina come tribunale per se stesso? Ma come nei suoi sogni, presidente, nei suoi per questo tribunale? Berlusconi non è giudicabile. Berlusconi ha una propria cioè, idea. È sopra. Berlusconi, secondo me, in buonissima fede pensa di essere al di sopra del giudizio, diciamo, corrente. Quindi è difficile immaginare chi pensa che lo possa giudicare, perché io lo ritengo una persona sostanzialmente in buona fede. Però magari capisco, immagina con Palonieri psicologicamente, come presidente del tribunale, no? Eccetera. E penso anche che ritenga in buona fede di aver voluto aiutare tutte queste persone elargizioni eccetera. Sesso non c'entra niente. E poi, ma questo credo che sia un corollario. E poi che questo modus vivendi o modus operandi possa avere, diciamo, delle controindicazioni dal punto di vista del comportamento dovuto al personaggio pubblico, questo lo lascio giudicare alle persone, agli elettori, a tutti i cittadini che hanno diritto di giudicare. Diverso invece l'interesse politico di chi si accanisce contro Berlusconi per fatti che se fossero stati commessi o dei quali fosse sospettata qualunque altra persona, magari dei loro simpatizzanti eccetera, tenderebbero a minimizzare, come si è visto in casi precedenti. Senta, e quindi i garantisti sempre, non solo quando è un tuo avversario. Mi fa vedere il portafoglio un attimo. Non ce l'ho. Cosa interessante che mi ha fatto vedere ieri sera. No, è lo scherzo di ieri sera, ma non è il portafoglio, era un elenco, non ce l'ho. Ma come non ce l'ha? Lo l'ho regalato all'amico, era un ritaglio che abbiamo fatto ieri sera in allegra compagnia, un ritaglio da una rivista americana, e c'era un cartoncino con il simbolo del clan. Simbolo del? Del clan, del clan, del Ku Klux Klan. Del Ku Klux Klan. Siccome tutti mi prendono in giro, mi dicono: non è il Rotary, però allora io prendo in giro gli altri e dico: sono talmente, avete talmente ragione, e ho mostrato agli amici in più occasioni. Cioè, lei c'ha una specie di tesserina del Ku Klux Klan. Questa, no, non esiste un tesserino del Ku Klux Klan, è un cartoncino ritagliato a rivista americana, o che faceva parte di un allegato a rivista americana, in cui è stato riprodotto. Sono state riprodotte la tessera del Ku Klux Klan. Il logo del Ku Klux Klan. E lei lo porta allegramente. Ma è molto moderato, io non porto nessun insieme del Ku Klux Klan, però vi dico sinceramente che se trovassi un bel pink, una bella insegna dei sudisti, la porterei molto volentieri. Non del clan. Io nella guerra di secessione sarei stato chiaramente dalla parte del glorioso sud. E d'altronde in America esiste una Southern League, molto vicina alle nostre idee, che contesta Washington ladrona, eccetera, eccetera, e che fatta... Come Washington ladrona? Certo. Ma che cos'è? Ma certo. Ma certo, vabbè, siamo tracimando. Noi siamo molto vicini a questa destra autonomista, profonda, identitaria americana, e che tra l'altro è un po' vagamente razzista, un pochettino. Ma le accuse le subiamo anche noi. C'è sempre gente cattiva che pensa solo per ma il lei fatto, si sente vicino all'idea del Ku Klux Klan, solo per il fatto che noi vogliamo cacciare calci nel culo i clandestini, pensa che siamo razzisti. Ma ho capito, ma non è una cosa. Ma scusi, ci sono le leggi. Lei si sente vicino al Ku Klux Klan o no? No, io mi sento vicino ai sudisti al clan, no, americani, al clan, quelli al che clan, si vestono, no, di bianco, presente col cappuccio, no, perché non mi piace neanche, voglio dire, la il cappuccio, il bianco, no, il bianco mi piace, Padania Cristiana bianca, mai musulmana, però il clan no. Il clan mi sembra un come dire un'edizione moderato, no? Grottesca di quella che è la nostra tradizione cavalleresca, cioè, mi piacciono i templari, i teutonici, i crociati, no? Tutte cose moderate, cose attualissime. Il clan americano è un po' un'edizione grottesca di tutto questo, un'edizione un po' alterata dello spirito originario. Cioè, quindi ci sono questi due divertimenti, quindi... A Borghezio piace questo, invece a Berlusconi piacciono più queste feste un po' più leggere, ma, no? Siete due tipi molto diversi. Il Berlusca è un uomo che lavora molto, sì. E evidentemente il modo per scaricare le tensioni, lo stress del lavoro sarà questo è quello che le cronache ci lasciano immaginare. E lei no, invece non sfoga in, in questo modo. Però voglio dire una cosa, voglio dire una cosa. Che fino adesso, e spero anche in futuro, non sono emersi dei comportamenti veri, provati con certezza, perché un conto lo spettegulese, eccetera, che facciano ritenere grave il comportamento, o gravi i comportamenti del presidente. Per cui ten dur, non farti condizionare da questo tentativo, da questo di delegittimazione, anche diciamolo chiaro, anche di criminalizzazione. Perché, tenga duro, perché, questo è il consiglio che viene da Borghezio qui a Strasburgo. Ho molto apprezzato il riferimento fatto ieri da un telegiornale molto obiettivo come il TG1, molto obiettivo, con il precedente di Leone, molto obiettivo, che fu spettanato e poi gli chiesero scuse. Obiettivamente c'è questo. Sono casi molto diversi. Lo fecero dimettere. Ma il TG1 aperto sulla Tunisia l'altro giorno. Stava cascando tutto il TG1 aperto con la Tunisia. Vi devo fermare. Grazie a Borghezio. Grazie a voi, Padania Libera. Cristiana, mai musulmana. Anche. E vivo i sudisti in America. In America. Pure. Il clan no. Qui i nordisti. Il clan no. Il clan no. Però? Il clan no, anche se... simpatizzante a carnevale non sarebbe male che qualcuno diciamo, si vestisse come quelli del Ku Klux Klan e facesse, facesse prendere qualche buono spavento a delinquenti, spacciatori. Ma che dici? Immagina una cosa di questo tipo, che qualcuno dovrebbe vestirsi in Italia come quelli del Ku Klux Klan per far prendere spavento agli immigrati clandestini che combattono. Altro che ronde padane, ai delinquenti, perché visto che se ne fregano delle nostre leggi, visto che se ne fregano. Dunque lei vorrebbe il Ku Klux Klan in Italia? No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che a Carnevale. Un periodo purtroppo molto limitato, perché purtroppo molto limitato nei paesi civili, l'Italia propriamente detta è sempre Carnevale. In Italia sarebbe più facile, si può fare durante tutto l'anno. In Padania a Carnevale, ecco, non sarebbe male uno scherzo di questo genere. Perché dato il lassismo, il buonismo imperante, anche durante il nostro governo impera sempre il buonismo, purtroppo ancora. Drammaticamente, io dico che in certe situazioni, in certe pensiamo zone, alle violenze, pensiamo ci vuole il clan, droga, ci vuole il clan, eccetera, eccetera, ci vuole il clan. Pensiamo alla prostituzione, pensiamo alla concussione, pensiamo alle cose gravi, il traffico di droga, eccetera, che eccetera. Un bello spavento, una bella ammonizione, una bella croce infuocata. Come no? Un bello spavento notturno, qualche urla, eccetera. Ma che un scenario di terrore, ma meglio Bunga Bunga. Allora, scusi, ecco, fargli vabbè, ho capito. Croci infuocate. Grazie Borghezio, grazie. A Carnevale. Però in Italia Carnevale tutto l'anno. Vabbè, certo, non è mica colpa mia. Se l'Italia è un Carnevale eterno. Va bene. Alberto da Padova, buonasera. Grazie Borghezio. Grazie a voi, Padania Libera. Ancora. Anche mica radio. E mica radio Padania. Dica. Per quanto riguarda che tutti in questi giorni dicono che la vita privata del Premier comunque non ha niente a che fare con la vita politica, e lui comunque è una persona molto generosa. Allora, nel momento in cui lui usa i propri soldi per fare dei regali perché è generoso, potremmo anche dire che non interessa, e è una cosa che non c'entra con la vita politica. Ma nel momento in cui questi favoritismi sono posti come consigliere regionale o altro, allora dobbiamo dire che tutta questa generosità che ha Berlusconi effettivamente non può essere discostata dal personaggio politico che rappresenta. Quindi questa linea che sta tenendo nella sua vita privata pare che non vada proprio d'accordo con quella che è Alberto, lasci perdere pare eccetera, mi dica cosa pensa lei, quello che Berlusconi fa nel privato? Quello che Berlusconi fa nel privato non è... È pubblico, perché... È pubblico. E dunque? Tutte le persone che in questo periodo stanno tentando di difendere, dicendo ma sì, Berlusconi a casa sua può fare quel che vuole, effettivamente si stanno arrampicando sui specchi, perché non è così, come tante altre persone dell'opposizione stanno dicendo in questo periodo. Va bene, grazie. Matteo da Sassari, buonasera, sempre 800 24 00 24. Salve, buonasera. Io chiamo riguardo l'autodifesa di Emilio Fede qualche giorno fa al TG4. L'ho trovata veramente disgustosa, perché alla fine una persona che sguazza col suo giornalismo spazzatura tra il caso Marrazzo, il caso Sircana, va a creare scoop, come ad esempio il servizio di Sipario al Calle di Venezia. Io trovo che non si il servizio di Sipario, lei è attentissimo, lei è una sorta di esegeta di Emilio Fede, di quello che accade su Rete 4. Dove l'ha visto questo servizio? Durante Sipario che cosa è successo? Durante Sipario c'era lui con una telecamera fissa a Venezia e si vantava a scoop di presunti spacciatori fantasma. Vabbè, allora? Sì. Non dovrebbe protestare su quello che sta avvenendo, cioè con le telecamere davanti alle ragazze, eccetera, eccetera, giusto? Sì, ma credo che lui abbia fatto lo stesso quando si è trattato anche dell'opposizione con Marrazzo e Sircana, e quindi non credo abbia il diritto di potersi lamentare. E così ora potrà capire quello che ha passato la moglie di Marrazzo, la moglie di Sircana e tutte le persone bravo. Però scusami Parenzo, grazie Matteo. Dai, una vergogna, devo dire la verità, non è che nel telegiornale si possono fare tante critiche al telegiornale di Emilio Fede, ma non è che sia Fede, riguarda il giornale, riguarda le volte Libero, cioè serenamente bisogna dire che sulla vicenda, ad esempio, Sircana, solo perché il portavoce di Prodi si era fermato, ma non si sa neanche cosa stava facendo, forse stava parlando con una ragazza, non lo sappiamo. Cioè, la privacy, una foto lo ha inchiodato. Cioè, la privacy, tu dici che viene invocata adesso, non viene usata quando si tratta, certo, del nemico politico. Anzi, questa campagne di stampa per una foto, non c'era neanche un'inchiesta giudiziaria. Cioè, la differenza è abissale, effettivamente. Qui si parla di intercettazioni, ragazze che hanno ricevuto denari, soldi, case incomodato d'uso, leggendo le carte. Non è un reato, eh? Come? Non è un reato fare regali, né... Non è un reato fare regali. Non è un reato, fino a prova contraria, fare regali... Se dovesse essere appurato lo sfruttamento della prostituzione, no, è un reato. Non c'entra niente lo sfruttamento della prostituzione. No, quella, l'induzione della prostituzione riguarda Fede, l'Ele Mora. Sono accusati di questo tipo di reati. Sì, poi io mi auguro e spero per Emilio Fede, Mora non lo conosco, ma spero per Emilio Fede che, voglio dire, riesca a dimostrare la sua assoluta innocenza. È vero che per una foto di un signore Sircana che si era fermato a parlare con una signorina, hanno montato per dei mesi delle campagne di stampa. Una cosa pazzesca. No, ho capito. Marco dalla provincia di Milano, buonasera. Cruciani, buonasera. Senti, volevo dire solo una cosa velocissima su questa della foto. Parenzo dimentica che ci fu un direttore di un giornale che pagò 100 milioni di lire, se non sbaglio, con la foto per tenere nel cassetto e mai spiegò il perché non la pubblicò. Naturalmente. Allora, questi qua sono fatti interni. Ma perché è una notizia, una macchina che si ferma? Ma che dice? Perché è una notizia, una macchina che si ferma? Una macchina che si ferma? Lui sta dicendo un'altra cosa, l'ascoltatore. Sta integrando quello che dicevi tu prima, a proposito di... A proposito di le cose a metà, a questo video. Vabbè, comunque Marco, di cosa voleva parlare? Perché la Chiesa, ad esempio, la tira in ballo tutta sera, la Chiesa non si prendono i preti per le sottane quando fa comodo. La Chiesa dice anche mille altre cose, aborto... la procreazione gay, ma adesso che c'entra, eccetera, scusa, eccetera. Ma io infatti non sono neanche cattolico, io ho detto semplicemente niente. Ma no, lei sbaglia, lei non segue, offende, io no, ho detto non si offende, apparenza, non si offende, ma io non mi offendo, discuto, ma io non mi offendo, discuto. Anzi, mi vuol dire, io dico solamente dico che uno che fa parte del Partito Popolare Europeo cattolico. Ma quindi c'è un certo imbarazzo, su questo non c'è dubbio, riscontrato anche qui a Strasburgo. Certo, oggi c'è peraltro un'intervista. C'è un'intervista di Maurizio Lupi sul Corriere della Sera, esponente di Comunione Liberazione. C'è un certo imbarazzo anche da parte qui di Mario Mauro, che è il capogruppo del PPE, insomma, del capo delegazione italiana qui. Insomma, c'è un certo imbarazzo sulla condotta privata di Berlusconi. Ha detto io ho altri valori, onorevole Maurici, io ho altri valori, ho un altro stile poi di vita, voglio rivendicare. Difende Berlusconi, il garantismo, le cose, i magistrati, eccetera, però dice io ho un altro stile di vita. Dobbiamo dare la linea alla pubblicità, 800 24 00 24. Il problema, come dire, della reazione del mondo cattolico in questo frangente esiste, su questo non c'è dubbio. Ci sono delle persone che sono molto imbarazzate per quello che sta uscendo fuori. Ci mancherebbe fuori. Altro. A tra poco. Si apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine illibata, cercasi, donna usata, già rodata, cercasi, donna sicula o padana, oriunda clandestina. Quanto è perfetta questa canzone? Quanto è perfetta questa canzone? Ma complimon. È con noi Sergio Silvestris. Evviva. Del PDL pugliese verace. Bentrovati. Beh, iniziamo così, spettacolare. Ha chiesto le dimissioni di Berlusconi, Silvestris. Quando mai? Non è vero. Silvestris, due punti, Berlusconi si deve dimettere. È immorale che si comporti in questo modo. È vero, ha fatto questa dichiarazione. Non è vero. Stiamo registrando, tagliate siamo tutto. In diretta, in diretta siamo. No, allora non è vero, non l'ho chiesto, non lo chiederei mai. Il presidente Berlusconi deve continuare a governare bene come ha fatto in questi primi due anni e mezzo. È perché ridi, scusa? No, scusami, perché ridi? Perché è una cosa avanzata. Perché ridi? Continuare a governare. Bene, anche come ha fatto europarlamentare del PDL, che poi dica Berlusconi governa male. Ma no, che magari potrebbe dare una sterzata, un'accelerata sulla... poi, ha detto che ha governato Parenzo, bene. Parenzo, sei in minoranza, perché il 47% degli italiani la pensano come te, il 53% continua ad avere fiducia nel presidente Berlusconi. Sta citando, i sondaggi, quelli che stanno sui giornali, quelli che stanno su tutti i giornali e quelli che vengono periodicamente commissionati, che dicono che la fiducia nei confronti del premier continua ad essere alta. Scusi, onorevole Silvestris, ma questa vita privata di Berlusconi, ecco, non la mette un po' in imbarazzo? Cioè, dovrebbe cambiare lo stile? La vita privata, dicevi? La vita privata di Berlusconi. No, l'hai detto tu. È anche pubblico. Qualsiasi cosa fa Berlusconi in privato è automaticamente pubblico. Quello che sta emergendo in questi giorni e i commenti che, come dire, alcuni anche colleghi del PDL stanno facendo, trovano la mia condivisione. Io non mi comporterei come si racconta che Berlusconi si comporterebbe, però restano sui fatti privati sui quali portarsi come vuole. Quello su cui noi siamo chiamati ad esprimerci, a dare un giudizio, sono i risultati della sua attività pubblica e di governo, non quella solo, istituzionale, non so, quella non politica. Solo quello, non solo quello. La vita privata resta nelle libertà di organizzazione di ciascuno. Poi noi siamo il popolo delle libertà. Quando abbiamo fondato sto partito lo potevamo chiamare come volevamo. Non abbiamo mica chiamato il popolo dei bacchettoni, PDB, stava pure male come PDL, popolo delle libertà. Ognuno è libero, almeno a casa sua, ma di fare quello che vuole. Ma lo diceva Guzzanti, a casa sua, a casa sua, a casa sua. Questa è la casa delle libertà, facciamo un po' come cazzo ci pare. Ma questa è una battuta di avanti. No, perché hai detto una parolaccia, questa non la dovevi dire. Ma scusi, ma scusi, la presente attimo, è cattolici. Stai un po' zitto un attimo, Parenzo. Però direttorissimo. Lo dico con, grande affetto, con tutto massimo rispetto per le autorità civili, penali, eccetera, eccetera. Militari e religiose. Militari e religiose. Però voglio dire una cosa: c'è un problema che riguarda il fatto che ci sono ragazze che parlano, interviste, gente che dice ho fatto sesso, intercettazioni. Ma quelle cose pubblicate dai giornali? Perché sono? Ma non vanno letti i giornali, l'ha detto Berlusconi, non come? Leggete i giornali. Come non vanno letti? Ma no, ma scusate, sono 4 mesi, 5 mesi che Berlusconi continua a dire non leggete i giornali, raccontano fesserie. Capito, poi scrivono le fesserie e voi le continuate a leggere. Quelle lei cose, non li legge, per esempio? Ma ogni tanto, ma so distinguere le cose vere dalle fesserie. Quelle sono fesserie, di che stiamo parlando? Chiacchiere, chiacchiere. Assolutamente, roba inventata, no, qualche giudice comunista, qualche giornale di sinistra. Ambulanza, roba che non regge, non regge. Come se ne esce da questa? Resistere. Berlusconi, ma resistere rispetto a cosa? Alle chiacchiere pubblicate dai giornali? Non esistono. Siamo allegri, in siamo in forma e si va avanti. Ma allegri di cosa? Ma capite che fate sempre festa? Ma lo ha detto Berlusconi, siamo allegri. Ma siamo allegri di cosa? Ci sono delle inchieste giudiziarie. Sì, ma... la concussione, la nipote di Mubarak, il Bunga Bunga. Ma allegri? Ma sono chiacchiere. Ma io capisco ragazzi, che qui lei a Strasburgo... Ieri il TG1 di queste cose non ha parlato. Chiariamo e mettiamo le cose in è un problema, però. Ma non è un problema, è stampa libera, non è libera di dire quello che vuole e di non dire quello che non ritiene utile. Ma deve dare notizie, ti giuro. Scusa, ne ha parlato, qual è una notizia? Ne ha parlato in realtà, ne ha parlato. Ma ne ha parlato così come andava fatto in quarta notizia. Cioè, ma non può decidere lei cosa devono fare i giornali e televisione. Ma mica lo decido io. Ambulanza, però se un telegiornale mette le notizie in un ordine giusto, io... Cioè, per esempio, la Tunisia l'altro giorno, la prima notizia, la seconda, 2 giorni fa. Tunisia, dramma Tunisia. Questa è la ma tu hai pagato il canone Rai? Io sì, lo pago. E quindi voglio dire, è un servizio pubblico. Ma un italiano che gli frega della Tunisia se qui sta scoppiando l'inferno e sta pagando il governo? Ma quale inferno? Le chiacchiere pubblicate dai giornali che non vanno letti. Ricadiamo sullo stesso errore. Non vanno letti i giornali. Io domani mi sa che potrei seguire anche il consiglio di onorevole Silvestri. Sentiamo questa sera come titolo il TG1. Vediamo. Storica visita del presidente cinese negli Stati Uniti, Obama, mondo migliore se i diritti umani sono rispettati, accordi per 45 miliardi. Caso Ruby, Berlusconi, violata Costituzione, processo solo con giudici super partes, governo va avanti per riforme, a partire da giustizia. Opposizioni chiedono dimissioni premier, Ruby, Berlusconi non mi ha mai toccato, mai chiesto 5 milioni, né foto né video agli atti. Afghanistan, la russa, Luca Sanna ucciso da un infiltrato, doloroso, ma dobbiamo restare, la salma dell'alpino domani in Italia. Tutto corretto. Su questo, sull'Afghanistan non scherziamo. Non scherziamo, forse ieri, dobbiamo dire, forse abbiamo scherzato un po' troppo anche ieri. Scusa perché forse qualcuno, qualche tuo radioascoltatore ha equivocato, io non facevo nessuna ironia sul militare italiano che è morto in Afghanistan, anzi. Però tutt'altro. Questa sera è più importante, la secondo l'onorevole Silvestris, è più importante l'incontro al vertice tra il presidente americano e quello cinese o il caso Ruby? È importante che ci siano tanti telegiornali, che in una pluralità di redazioni, di organizzazione, di selezione delle notizie scelgano liberamente, liberamente in che modo darli, e ognuno è libero col suo telecomando di scegliersi quale seguirsi. Ma adesso bisogna rimettere mano alla questione delle intercettazioni oppure c'è qualche strada un po' più... La questione delle intercettazioni andava probabilmente affrontata con maggiore efficacia qualche mese fa, e il fatto che qualche spezzone della maggioranza ha cercato in tutti i modi di annacquare quella legge oggi ha qualche spiegazione in chiariamo, più. Chiariamo però, onorevole Silvestri, una cosa. Cioè non è che è stato intercettato il cellulare di Berlusconi o di qualche deputato. Qui l'inchiesta della procura, rigorosissima, ma poi questo lo vedremo, si basa... Il tuo parere. Rigorosissima. Questo è il tuo parere. Ma è quello che scrivono sempre i giornali di sinistra. Insomma, sembra da questi documenti... Chi sinistra? Il Corriere della Sera già è di sinistra. Beh, vabbè, voglio dire, i giornali non vanno letti in generale. Vabbè, diciamo. Non vanno letti. Su intercettazioni fatte sugli ospiti della villa di Berlusconi. Che è qualcosa di allucinante. Se per sei mesi intercettassero tutte le utenze di tutti coloro che vengono a casa di qualcuno di noi, a casa mia o a casa tua o a casa tua, io voglio vedere se nelle conversazioni non viene fuori qualcosa che mette in imbarazzo, in un modo o nell'altro, che produce sputtanamento, perché poi alla fine tutto quello che resta o che resterà molto probabilmente di questa vicenda, al di là di un dato giudiziario che mi sembra assolutamente risibile e inconsistente, è uno sputtanamento generale che forse è l'unico obiettivo che chi l'ha messa in piedi voleva. Ma forse non è meglio oscurare le celle di Arcole? Ma secondo me, ecco, su questo bisognerebbe orientare meglio le prossime iniziative legislative. Cioè, in che senso? Hanno tentato per un anno di fare questa riforma delle intercettazioni e non ci sono riusciti. Adesso facciamo la riforma delle celle della Telecom. Togliamo questa benedetta cella di Arcole, perché ogni volta che va uno a casa di Berlusconi, mandi un'ambulanza, direttore, ma si può sostenere? Scusa, ambulanza, ma dai, Davide, tu dove abiti? È arrivata l'ambulanza, ambulanza. Strasburgo, in che rue siamo? Tutto. L'entrée, la tour, Rue delle Parlamo. Tu in qui? Rue delle Parlamo, onorevole Silvestris. No, ma niente da fare. Non mi prendo. Vit. Scusami, Davide, tu dove abiti? Tu dove abiti? Tu dove abiti? Io abito tra Roma e Milano. In Toscana. Che vuole sapere? Ti hanno messo una cella della Telecom. Ma non ho nulla da temere, solo con mia moglie, non c'è bonga bonga. Che mi frega? Con mia moglie, ma se non c'hai una cella vicino dove si agganciano tutti i cellulari di quelli che vengono, vivi più tranquillo. Ma cosa da nascondere? La nuova riforma che bisogna fare non è quella delle intercettazioni, è la riforma. Ma lei è serio o no? È serissimo. È la riforma delle celle della Telecom. Ambulanza di nuovo. Ma no, ma oscurare la cella di Arcore, bisogna metterla a Milano Marittima, così si prendono tutti quelli che vanno a Milano Marittima e non si rompe più le balle a Berlusconi quando la sera vuole ospitare qualche amico. Impunità totale. Impunità che cosa? All'ospitare gli amici a casa sua. Ma se vengono commessi dei reati dentro quel posto? Ma quali reati? Di cena, di avvelenamento, di mangiare il caviale? Ma di che stiamo a parlare? Uno a casa sua non può ospitare un po' di amici e divertirsi la sera, ammesso che questo sia successo. Nemmeno le cene. Ragazzi, è tutto da dimostrare. Ma le cene? San Tommaso diceva: se non vedo non credo, e io non ho visto niente. Quindi, neanche Berlusconi è arrivato a smentire le cene. Le smentisce anche le cene. Io non le smentisco, semplicemente non ci ho partecipato, quindi non le posso confermare. Dunque, per lei potrebbero anche non essere state nemmeno le cene. La cella di Arcore, la cella della Telecom. Perché là si agganciavano tutti sti benedetti cellulari. Io sono andato tre volte. No, tu sei andata quattro volte. Adesso faranno anche, secondo me, il Tribunale di Milano arriverà ad ordinare la gastroscopia a ste ragazze per vedere dei residui di cibo, se è vero che avevano mangiato, avevano bevuto vino, Coca-Cola o aranciato, avevano mangiato ostrico, avevano mangiato focaccia. Per lei ci vuole la prova del preservativo, come dice Guagliarini, per i magistrati dico, non credo finché non guardo il preservativo. No, ma io non vorrei evitare che i magistrati si mettessero a guardare tutto questo. Però c'è un dato. Qual è? C'è una sinistra che oramai da due anni in Italia sulla sinistra. Giudici, giornali e sinistra sono, voglio dire, tre pagine di uno stesso volumetto. C'è la sinistra che da tre anni fa la sua politica solo guardando nella seratura di Berlusconi. Sono tre anni che parlano delle sue notti, delle ma sue commare, avrà commesso errore quest'uomo, no? Ma no, forse saranno loro un po' invidiosi perché ma troppo bacchettoni. Ma non è Fassino che ha telefonato alla questura di Milano per liberare la nipote di Mubarak? Uno non può telefonare alla questura di Milano, ma non sta pure il spendo 12 per chiamare prima le questure, Berlusconi non può telefonare. Cioè, questo è l'unico uomo d'Italia che non è libero di chiamare una questura. Ma per liberare una che era stata presa, ma lei è pazzo! Ma no, è completamente pazzo! Ma non è assolutamente così. Uno non può chiamare la questura. Non posso discutere con un pazzo, Luciano! È pazzo! È simpatico, ma è pazzo! Silvestri è pazzo! Ma quando mai? Non ce la faccio più. Reato di telefonata alla questura. Ma tutti sti reati. Allora, reato di cena con amici. Si chiama reato di aggancio. Concussione. Ma che cosa? Guardi le labbra. Concussione. Dicono i magistrati. Dicono, guardi le labbra. Sostengono i giornali di sinistra che dicano i magistrati. Cioè, è tutto da dire. No, ipotizzano i magistrati. Dicono i magistrati in questo caso. Ma a te l'ha detto il magistrato? No, dove l'hai letto sul giornale? Le carte. E dove l'hai letto sul giornale di sinistra? Ma non credere nemmeno alle carte. E ritorniamo allo stesso discorso dei giornali. Era tutto chiaro. Pubblicità. Tutto finito. Questa della Dattario è la storia vera. Che piano. Si trovò a palazzo quella sera. Non è vero. E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecoro. Fammelo dire. Luca, che piacere. T'ammazzo. E baci. Furono sospiri. Per cortesia, fallo per me. Sono altri 1.000 euro se ti giri. Durò tutta la notte questa cotta. Adesso fai una doccia, poi un'altra volta. Non lo dire. Adesso invece arriva la parte volgare. Qual è la parte volgare? Mentre Barack Obama era eletto. Il nostro presidente era eretto. A memoria, oh, Patrizia, ti dobbiamo ringraziare. Almeno tu alla patria alzi il morale. E va bene, 20:16, 800 24 0024. Questa è la Zanzara. Lei è un fan di Checco Zalone, naturalmente. Grandissimo, grandissimo. Dice, si vergogna un po' dopo aver superato Benigni. Ma perché? Deve esserne orgoglioso. È un grande, è davvero il numero uno. Ma lei come... Ho invitato il suo regista, sì, che ho il piacere di conoscere, a venire a proiettare il suo film qui a Bruxelles in Parlamento. Addirittura? Sì, ma perché sarebbe una cosa bellissima. Poi gli ho detto, organizziamo una cosa insieme, magari con un collega della Lega, visto che c'è questo richiamo del mezzogiorno a Milano in questo film che funziona molto bene. Sarebbe davvero una bella cosa per presentare un'immagine allegra e divertente dell'Italia. Piacevole, certo, serena, gioiosa, un po' come Berlusconi, questa come bella Berlusconi, politica fatta di serenità, di piacere. Ma di che allegria, serenità? Di... Ma serenità? Ma guardi che veramente... Ma guardi, cioè, voi le vedete le facce, non solo al TG1, anche agli altri TG, quelli che non andrebbero guardati, ma le vedete le facce? Cioè, esce Berlusconi, nonostante tutte ste chiacchiere che si inventano su di lui, sorridente, tranquillo. Non mi faccio il gestaccio, ma quale mollare, io vado avanti. Escono gli altri, che dovrebbero essere contenti per le chiacchiere dette su Berlusconi. Tutti arrabbiati. Con dei muci, delle fa... Fini oggi, mamma mia, sembrava che gli fosse morto il gatto. Casini, sempre triste. Bersani, poi, quando sta col broncio al massimo, in realtà lui sorride, ma non ci si accorge in televisione. Sommessamente, cosa vuoi diciamo dire? Cosa vuoi dire, dire di fronte a questa analisi lucida? Ma Silvestri, con tutto sto bordello che i giornali di sinistra, d'accordo con i magistrati di sinistra e con la cella Telecom di Arcole, stanno facendo. Alla fine, guardando i telegiornali, chi è l'unico che continua a apparire bello e sorridente? Ah, mi faccia dire, rispondere a me, Berlusconi. È chiaro! Una cosa pazzesca. Dopo 10 minuti di conversazione con me, ci sei arrivato pure tu. Vabbè, dopo il traffico, l'onorevole Silvestris, perché è europarlamentare del PDL, Silvestris... Deputato, certo. Ci racconterà come... cerca di convincere i suoi elettori durante i comizi, che so che lei è autore di performance. No, ma guarda, bisogna votare e sorridere. Berlusconi ci insegna questo. Bisogna anche non commettere dei reati, amico mio, ogni tanto. Però, ma chi li ha commessi mai i reati? Bisogna. Cioè, secondo lei Rubi, per esempio, mai fatto sesso, come dice oggi in un'intervista? Lo dice Rubi, lo dice Berlusconi, lo ripete Rubi, lo ripete Berlusconi. Secondo i magistrati, lo dice l'avvocato di Rubi, secondo i magistrati va indagato. Ma sa che basta, sa che basta per il reato 600, là, quella roba lì, no? Di prostituzione minorile, basta palpeggiare un po'. Beh, per il Vangelo Vangelo, basta pure guardare, Gesù a un certo punto dice: in verità ti dico, se uno di voi guarderà una donna desiderando di possederla, agli occhi di Dio è come se l'avesse posseduta. Quindi ti basta guardarla per il Vangelo. Che c'entra? Ma che c'entra il Vangelo? E voglio dire, bisogna chiamare, bisogna chiamare le cose con i loro nomi. Berlusconi con Rubi a letto non ci è andato. Poi, ma chi l'ha detto? Sei magistrato, l'hanno detto Berlusconi, Rubi e l'avvocato. Poi sei magistrati di Milano, hanno la prova, hanno la prova e ci devo fare vedere la ma se siete così sicuri, fuori le foto, perché non convince Berlusconi a farsi deve andare dai PM. Lui dice no perché sono incompetenti, primo, secondo perché sono non sono super partes, e io sono d'accordo con Berlusconi è una notizia clamorosa. L'onorevole Silvestri del PDL è curiosamente d'accordo con Berlusconi, ma questi qua traffico. Cercasi apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Allora, siamo sempre con Carmen Consoli, no? Questa sera. Meravigliosa. Canzone perfetta, 800 24 00 24, sempre qui alla Zanzara, Sergio Silvestris, europarlamentare del PDL. Sobrio, moderato. Beh, per nulla fazioso. Che significa per nulla fazioso? Sembra un editorialista del Corriere della Sera. No, no? Forse è TG1, forse. No, sto scherzando, perché voi il Corriere. Ma noi siamo il popolo della libertà. Sì, siamo, ma non è che può dire quello che gli pare, però. No, ecco, libertà. Voglio dire, ma tutto quello che sta uscendo, lei non è un po' schifato? Cioè, di questa. No, ma so che faccio sempre la stessa domanda. Ma cosa sta uscendo? Non è uscito nulla. Parenzo già inizia a ragionare con un minimo di equilibrio, come dire, fuori dal coro della vulgata di questi anti-berlusconiani un po'. Cioè, non c'è nulla. Cioè. Ma finora di concreto non c'è nulla. Secondo punto, qualora vi fosse, e l'unico che potrebbe confermarlo sarebbe solo Berlusconi. Tutto falso. Qualora qualcosa vi fosse, apparterebbe alla sfera privata di Berlusconi. Completamente. Perché è sempre così contento, a parte che non è vero che è sempre così contento. Come sempre no? Così. Sorride sempre, solo lui, sempre sorride. Cioè, ieri ha detto: io mi sto divertendo con un matto. La politica deve essere un divertimento. Insomma, avete trasformato l'Italia in Disneyland. Ma quando mai? Avete trasformato questo paese in un carnevale continuo. Ma meglio il Disneyland il 2 novembre che va a fare la sinistra. voglio dire, la politica. Ma vi rendete conto a che livello avete portato questo paese? No, la politica deve essere fatta. Ma ridateci le nane e ballerine della Prima Repubblica. La politica deve essere fatta con un po' di allegria, perché il motto deve essere votare e sorridere. Voi pensate che sforzo è votare? Cioè, arriva il giorno delle elezioni, la gente si deve alzare, deve scendere dai palazzi, non funziona l'ascensore, fai le scale, scendi giù, prendi la macchina, ci arriviamo, prendi la macchina, vai a prendere la nonna, portala al seggio, alla scuola, c'è l'affollamento, il semaforo, il vigile che fischia, tu parcheggi, no qua non puoi stare, finalmente dove un parcheggio, parcheggi la macchina, prendi la nonna sotto braccio, arrivi a finire dentro al seggio, fai la coda, finalmente arriva il tuo momento, tiri fuori il documento, ti sei scordato il certificato elettorale, ritorna indietro, torna a casa, rifatti le scale, quelli che vanno a votare. Ma chi è sto cretino che si dimentica tutti quelli che vanno a votare, allora, che devono farsi le code nei seggi, prendere le macchine, parcheggiare, il vigile che fischia la porta. Se non lo si fa con un po' di allegria, la politica deve essere fatta di allegria, perché altrimenti la gente a votare non ci va. Ho capito, più, ma che c'è dell'allegria con i reati? Poi piove, fa caldo, c'è il sole, c'è la neve. Ma quando? Quando si va nei seggi a mettersi tutti in fila. Se tutto viene fatto con un po' di sana allegria e di un po' di divertimento. No, non ho detto che dobbiamo fare la discoteca. Dobbiamo fare una politica che non sia fatta solo di pianti, di problemi, di tristezza. Di bunga bunga. Un po' di sorriso, di allegria. E se qualcuno la serata se la vuole un po' passare in maniera più allegra a casa sua, deve essere libero di farlo senza i magistrati che lo inseguono, le celle di Arcore che si seguono. Ecco, questa storia delle celle di Arcore, vogliamo mettere in un progetto di legge questa storia delle celle di Arcore? Assolutamente sì. Cioè, come si fa? No, ma lui qui è serio, questo è il dramma. Cioè, secondo me, cioè, il progetto di legge è nuovo, accantoniamo le intercettazioni. Io non sono d'accordo che si rimetta in pista la legge sulle intercettazioni. D'accordo, non è d'accordo. Allora, aboliamo le celle della tele. Ecco, no, ma che significa aboliamo le celle della tele? Che mettiamo delle antenne, due o tre in Italia, così non si capisce uno sul chiellulare se sta ad Arcore a 3 km. Ma per la mafia. Ma gliel'ha detto a Ghedini questa cosa? No, però glielo suggerirò. Glielo suggerirà a Ghedini. Ma per la mafia come si fa, ad esempio? È perché con i cellulari prendono pure i mafiosi. Certo, con le intercettazioni, ma non con le celle di Arcore. Ma cosa c'è delle celle? Ah, perché Arcore deve essere una isola indipendente. Non è che deve essere un'isola indipendente, ma stanno tutti a vedere chi entra e chi esce di là. Fuori a casa tua ci sta uno col taccuino che si segna chi entra e chi esce. Ma io non ho nessun problema che uno entri e esca da casa mia. Ma neanche Berlusconi. Mica Rubi ruba cuori a casa mia. Ma neanche Berlusconi c'ha problemi, è questo il dramma. Eppure lo stanno mettendo in un mare di inutili problemi. Lo dimostri che non ha problemi. Infatti lo sta dimostrando, lo sta spiegando e lo sta dicendo. Ma non è che deve solo spiegarlo, c'è un processo. Fermi tutti. Ti conduco io. Cosa? Signor Silvestri, lei lo sa che cos'è la nannetta? Com'era la storia di ieri? La nanna cosa? La nanna chiocciolina. A chiocciolina. La nanna chiocciolina. La nannina. Cioè, lei crede al Berlusconi del Bunga Bunga o al Berlusconi dolce che fa con chi era? Io credo al Berlusconi che nel 94 sì. ha evitato che le sinistre senza avversari. Senza avversari, senza. Vabbè, adesso lasciamo perdere il 94. No, che dal 94 che fa la nannetta a seggiolino con una fidanzata. No, che cioè, rimesso, la storia della che fidanzata di Berlusconi, piedi. Ci crede lei? La storia della fidanzata. È fidanzato Berlusconi. Voi siete fuori strada. Fuori perché strada. Voi leggete i giornali che non vanno ancora letti. Non vanno letti. Berlusconi, ma guardate, voi dovete ascoltare un po' di più il TG1. Il problema è che a quest'ora voi state facendo. Ma perché voi all'orario del TG1, voi fate la trasmissione ogni giorno. Parla della visita cinese. No, cinese. Primo titolo, la visita del summit. Perché dai, importante. Perché non è importante, sì, porca sì. ciuccia. Però sentiamo un attimo come titolo invece la 7. Mentana, lei per carità, lo sente Mentana? Grande Mentana. Ma ogni, tanto. Ogni tanto. Mentana. Mentana la 7. Berlusconi, nuovo videomessaggio. Vorrei andare subito dal giudice, ma Milano non ha la competenza. Accuse inconsistenti, persecuzione giudiziaria, riforma contro le toghe rosse, violazioni costituzionali, di tutto. Ma i magistrati milanesi escludono il Tribunale dei Ministri e difendono la loro competenza sull'inchiesta. È stato lo stesso Berlusconi a sostenere che aiutò la giovane Ruby come amico, non come Presidente del Consiglio. Reazioni prevedibili, dimissioni subito, chiedono le opposizioni. Inchiesta spazzatura, replica il PDL. Nel muro contro muro si inserisce un'ipotesi, quella di un voto su una nuova mozione di sfiducia. Le parole di stasera del Premier, le opinioni di Travaglio e Belpietro. Per Ruby il giorno della gloria televisiva, un'intervista a Alfonso Signorile. Signorini, violenze, bugie, soldi, lacrime. Violentata a 9 anni, racconta la ragazza. Ma da Berlusconi mai toccata neppure con un dito. Un continuo via vai nel condominio milanese di via Olgettina, civico 65, grande organizzatrice delle ragazze del premio e la consigliera regionale Nicole Minetti. Da lei sms alle giovani. Bimbe, sto arrivando. Un infiltrato, il killer del nostro soldato ucciso in Afghanistan. La salma di Luca Sanna giovedì in Italia. Il giorno dopo l'ultimo saluto con i funerali ufficiali. Beh, i primi 8 titoli tutti su questa tutti vicenda. Su. Che ne pensa lei, Silvestri, di questi? Preferisco il esagerato? Preferisce il TG1? La storica visita del presidente cinese. Le faccio ascoltare prima, perché poi dobbiamo concludere. Sabina Began. Sabina Began, oggi lei sai chi è la signora Began? Sì, sì, sì, sì. Lei è informatissima, le legge i giornali, non è che non li legge. Ma in televisione la vedo. Sabina Began oggi a Sky TG24, che naturalmente dice le feste sono colpa mia, Berlusconi non c'entra, lo amo, voglio proteggerlo. C'è un sacco di gente che ama Berlusconi. Organizzavo io le feste per farlo divertire, sono io il Bunga Bunga che è tutto uno scherzo tra me e Berlusconi. Nessuno lo difende, sono disposta a qualsiasi cosa per lui, sono la compagna, io posso essere per lui qualsiasi cosa, ma... Io voglio dire una cosa, signor Silvestri, adesso mi arrabbio pure io, ma non ci dovrebbero essere queste interviste sul Presidente del Consiglio, non dovrebbero esistere. La verità. Una che parla così del Presidente del Consiglio, ma lei se lo immagina una che parla così di Zapatero? La verità. Una che parla così, no, ma anche in Grecia, anche nei paesi insomma, verità, un po' più... Ma la verità. Non esiste. Per questo sono tutti gelosi di Berlusconi. Cioè, per questo, tu ce li hai 20 belle donne che Bersani può fare di me quello che vuole, Di Pietro, io per lui posso essere tutto, Casini, tutto quello che vuole, a tutte le ore. No, non ce le hanno loro, ce le ha solo Berlusconi. Ragazzi, è così, è questa la verità. Berlusconi è quello che ogni italiano vorrebbe essere. Questa Beh, no, è la verità. Un momento. Vabbè, calma, insomma. Ogni italiano medio vorrebbe. Sta davanti al bar e parla di come avrebbe messo in campo la formazione della sua squadra del cuore la domenica prima. Berlusconi ha comprato una squadra e ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Seconda cosa? Di come si sarebbe potuto fare i soldi se avesse avuto una bella cifra per partire. Berlusconi ha preso la liquidazione del padre, ha costruito Milano 2 e poi si è fatto più soldi di tutti gli altri. Sì. Tutti così parlano di come di come farebbero se governassero l'Italia o se fossero in politica. Berlusconi ha fondato un partito e ha vinto tutte le elezioni. E poi tutti vorrebbero tutti vorrebbero, arrivati a una certa età, potersi anche godere tanta compagnia. Ma neanche immagino di averne tanta come qualcuno sostiene che Berlusconi ce l'abbia. Gli italiani si immedesimano in Berlusconi. Vabbè, la fidanzata ce l'ha o no? Voi siete fuori strada. Ecco, appunto, ci concludiamo su questo. Siete fuori strada. Ma lui ha detto forse che c'è una fidanzata? Sì. Una persona, una relazione con una persona. Una persona. Cioè, potrebbe essere anche un uomo. Voglio dire, lo dirà solo lui, ragazzi. Grazie a Sergio Silvestris. Grazie a voi, viva Berlusconi e il popolo della libertà. Questo non sarà capito. Questo avevo capito. Pubblicità, torniamo subito. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno. Eccole qua le zanzare in trasferta a Strasburgo. Domani si torna, caro, sì. Caro Parenzo. Finita la gita, eh? Sei triste, Un po' sì, mi mancherai. Cosa? Io non ti posso mancare perché domani sera sei comunque con me. Sì, ma tu sarai a Milano, io sono a Roma. Poi ho dormito con Francesco Caldarola in questi giorni. Hai dormito? Nel letto con Caldarola. Uno degli uomini della zanzara, no? Dormito con Caldarola. Non fare queste rivelazioni, magari c'è la fidanzata di... Mica rubi rubacuori Francesco Caldarola. Ma cosa è una cosa vergognosa, qui si rivelano. Ma è una casa di vetro questa, è una cosa pazzesca. La zanzara è una casa di vetro. Io sono trasparente, non ho nulla di quello. Ma qui vedo che c'è un book fotografico accanto a me. Ah, c'è un signore che è un europarlamentare che fra poco presenteremo, ma davanti a lui c'è un book fotografico. Delle foto. L'europarlamentare si chiama Ugias, ha un nome un po' strano, adesso chiederò spiegazioni. Gian Maria, se non sbaglio, non Gian Maria, Gian Maria Ugias dell'Italia dei Valori, buonasera. Buonasera. Da dove viene questo Gian Maria? Che cos'è? Nome tipicamente esclusivamente sardo. Su questo, sulla sua sarditudine non c'è. Si sente? Ma Ugias, nome, nome e cognome sardo esclusivamente. Anche Gian Maria? Sì, esattamente, come Zappadu. Che e lei è l'unico, come Zappadu, di cui lei è l'avvocato. Ricordiamo che Zappadu, qui c'è qualcuno che ha il telefonino acceso, cioè tu, Parenzo, in questo caso. Ma era strano. Ricordiamo che l'onorevole Ugias, Italia dei Valori, è l'avvocato di Zappadu. E Zappadu chi è? Quello che diciamo forse per primo ha fatto conoscere all'Italia il rapporto che c'è tra Berlusconi ed alcune ragazze, le donne, con delle foto che suscitarono scalpore, che casino c'è qua? Fate rumori inutili? Fate rumori sono inutili. Sono delle persone, diciamo. No, delle persone che si muovono nello studio e che fanno rumore. E ci sono stati dei processi, dei procedimenti penali, eccetera, eccetera. E fece delle foto dentro Villa Certosa. Qui abbiamo davanti a noi. Infatti, dire il vero, non è stato il primo Zappadu, è stato l'unico. Perché mentre Dario ha registrato la voce di Rubi e degli altri si sentono soltanto dicerie e intercettazioni telefoniche, Zappadu è stato l'unico ad aver fotografato Berlusconi. Le famose foto. E io casualmente mi trovo qui il book Zappadu. Il primo book, esattamente. Il primo book Zappadu. Però Villa Certosa. Pagando Villa Certosa si possono anche vedere. E che paghiamo noi? Che paghiamo noi? Facciamole vedere ai radioascoltatori. Fotografo di facciamo vedere. Ecco, benissimo. Le faccia vedere ora. Facciamo vedere gratis. Allora, indice, lei vuole andare. Io scorro l'indice, posso leggere bacio saffico, cosce, tette. No, che fa? C'è tutto? C'è tutto. C'è tutto. C'è un reportage. Ma bacio saffico cosa si intende? Bacio saffico è tra chi e chi? Tra due ragazze sono e Berlusconi. Due ragazze sedute, guardi, sulle cosce di Berlusconi che si baciano tra loro davanti al presidente della Repubblica. Lei c'ha l'immunità. Ho detto della Repubblica. Ha detto della Repubblica. No, chiedo scusa. Ma lei non vorrebbe. Lei non vorrebbe Berlusconi presidente della Repubblica, immagino. Beh, come dopo esponente questa dell'Italia situazione dei penso sia un pochino difficile. Un pochino difficile. Senta, allora, sì, io la vedo questa foto. C'è Berlusconi con due ragazze. Una su una gamba, una sull'altra, che si baciano tra loro. E lui che fa? Lui mi dica poi che sono un po' lontano. Guarda. Vede, questo testimonia proprio il fatto che quello che sentiamo oggi è un'invenzione. Ah, come diceva. È tutta un'invenzione, come diceva Silvestri. Senta, ma di queste foto, che lei sicuramente non avrà portato, non le avrà portate tutte, diciamo la verità, quella più scabrosa, quella che lei ha visto del famoso book Zappadu, qual è? E non pubblicata. Quella è non pubblicata ovviamente. Fino adesso. Più ridicola o più scabrosa? Più scabrosa. Un bel finto matrimonio, volete vedere? Ecco, Berlusconi che tiene. Ce l'ha qua dietro? Guardi, no? Vado alla voce M, matrimonio. Matrimonio. Berlusconi con una ragazza in una mano, si vede una ragazza nell'altro che vanno lungo questo viale e fanno questa marcetta come un finto matrimonio. Le piace? Vabbè, questa insomma, voglio dire, non è entusiasmante, ma è anche simpatica. È anche simpatica. Questa qua è la più ridicola, diciamo. Invece quella più scabrosa, cioè Berlusconi nudo, c'è in queste foto? No. Mai. Berlusconi non si spoglia mai. E le donnine e ragazze nude invece? Neanche. Mai. E sono quindi allora niente. Qual è il problema? E allora qual è il problema? Nessun problema. Ah, vabbè, allora è una delusione sto book. No, ma dove ci faccia vedere la foto, quella che è più scabrosa? Sì. Sì. No, mani, guardi, vogliamo questo, vedere. Mani sulle tette. Mani di Berlusconi sulle tette. Sulle tette. Mani di Berlusconi sulle tette. E qui c'è la prova, eh? Qua c'è la prova. La prova. Prova però. Sfogliando il book. Sfogliando il book. Sfogliando il book. Tette. Ecco. Vediamo un po'. Allora. Beh, sì, effettivamente è qui, si vede. Queste sono si le mani di Berlusconi dentro un maglione. Vabbè, sotto un maglione. Sotto un maglione, sì. La mano non si vede, scompare sotto il maglione. Vabbè. Ah, però non si vede la tetta. Bene, insomma. Non si vede. Può essere anche un momento di relax. Cerchiamo l'altra, ci sono tutte. Ah, ce n'è una pure a petto scoperto, diciamo, a seno scoperto. Ma non sono tutte vere, comunque. Alla fin fine. Come non sono tutte vere? No, le foto sono vere, tutte le cose che si dicono in questi giorni sono invenzioni. Adesso provvederà la giunta per le elezioni a dire che non è vero e che quindi non si possono fare. Comunque devo dire una cosa, nel book portato qui dall'onorevole Uggias, avvocato di Zappadu, Italia dei Valori, si vede Berlusconi che mette le mani sulle tette in due versioni, ragazzi. Sotto un maglione, sotto una maglia e sopra senza. Ma quella sopra senza non me l'ha fatta vedere. Non c'è qua, ma esiste o no? Cioè, con una le ragazza tette che si vedono, no, la tetta che si vede con la mano sopra, no. Quella non si vede. Sempre abbiamo la mano nuda che va dentro le cosce delle ragazze, vuol vedere? No, scusi, la mano nuda di chi? Di Berlusconi? Berlusconi. La mano nuda, di direttamente in mezzo alle cosce. Ah, si vede? Sì, cicci, cosce. Cosa fa? Cicci, cicci. No, perché c'è l'elenco. Catalogo. Soglio, cicci. Cicci. Cosce, eccole qua. Faccio vedere. Che si vede, avvocato? La mano in mezzo alle cosce. Io non la vedo bene da lì. Alzi un po'. È così, è proprio così. Sì, è così. È così. Questa è buona, eh? Quindi, questo... Allora, si vede una foto. Zappadu è stato l'unico. Cioè, adesso non si sono inventati niente questi magistrati. No, è tutto. Ma è tutto. Non è un reato andare lì a fotografare a distanza la villa, casa di uno? È stato già accertato. No, è stato accertato. C'è ancora qualcosa. C'è stata una parte che è stata archiviata e poi è successo all'aperto questo. Cioè nel parco di Villa Certosa, all'aperto, con una semplice macchina fotografica, ha avuto la pazienza di fermarsi e di riprendere queste situazioni così. Pochino però anomale. la mano io non l'avevo mai vista questa. Questa non è stata mai fatta vedere a nessuno. Forse non è stata pubblicata questa. Pubblicata come forse? Sicuramente. Perché una parte sono state pubblicate, sì, sono state successivamente sequestrate, ma prima sono state. Però la mano di Berlusconi dentro la coscia. Questo non ricordo se è stato pubblicato, però c'è. Però c'è l'avrebbe. L'abbiamo appena vista. L'abbiamo appena vista, anche se poi lei me l'ha nascosta. Certo, pagando, bisogna pagare io tutte le diritti. Quanto costa una foto di questo molto, tipo? Molto. Quanto può costare? Mi faccio è una l'unica cifra. Fotografia di Berlusconi in atteggiamenti di questo genere. L'unica quanto vale? Quanto può valere una foto del tanto, genere? Tanto. 30.000 euro. E poi? No, di più. No, più di 30.000. E chi se ne frega? No, quanto può valere? 100.000. Beh, una serie di fotografie di questo genere possono valere 300-400.000 euro. Addirittura. Come un appartamento a Milano? Non di più. No, come a Milano no. Come a Milano. Vogliamo sentire due o tre ascoltatori che abbiamo oggi, abbiamo trattati malissimo. Manco uno in linea, ci siamo divertiti e basta questa sera. No. Una cosa pazzesca. Paolo da Bologna, buonasera. Buonasera. Uggias resta con noi fino alle 21, assolutamente. Paola. Buonasera. Mi dica. Mi dica. Volevo commentare questa faccenda ultima di Berlusconi che impazza. Sì, questa cosa così piccola che è successa. Dicevo che secondo me, oltre che politica, mi sembra più, cioè vorrei fare un'analisi un pochino più sociologica, cioè nel senso che, no, adesso senza esagerare, molto meno, però è un po' lo specchio della nostra cultura, cioè siamo stati allevati un po' tutti, dalle mamme, dalle nonne, copriamo gli uomini che fanno questo, l'importante è che tornino a casa, è normale che gli uomini facciano questo, e le mamme, le nonne perdonavano i figli, i nipoti, i fratelli, i ragazzi si coprono fra di loro, cioè è sempre successo. È chiaro che il capo dello Stato fa molto più scalpore che un altro, però è l'Italia, capo cioè, del governo, sì. Ecco, appunto, ci hanno... No, ma lei vuole dire, scusi se cerco di tradurre il suo ragionamento, Paolo, cioè in Italia cose di questo tipo che riguardano la politica, a parte che non sono mai uscite, diciamo, a... con questa intensità e con questi particolari, e se vogliamo anche con queste proporzioni, perché insomma sicuramente c'erano degli uomini politici nel passato che ne facevano di cotte e di crude, però insomma i mezzi economici di Berlusconi da una parte e poi il personaggio dall'altra fanno di queste vicende qualcosa di esplosivo. Lei dice che in Italia, per esempio, in un altro paese cose di questo tipo sarebbero state sanzionate subito, oggi ne discutiamo anche qui al Parlamento europeo, lo diceva anche prima l'onorevole Silvestris, cioè non esiste un paese dove... ogni giorno uno può trovare un'intervista su un giornale in cui una si presenta come la fidanzata, l'altra come una che è stata in una festa in una casa, cioè non c'è un, non ci sono, cioè noi siamo, no, ma questo fa parte dell'anomalia, questo fa parte, tutto questo fa parte dell'anomalia Berlusconi. Ma l'anomalia Berlusconi, io lo dico, poi le persone che ci ascoltano lo sanno, non come anti-berlusconiano, figuriamoci, ma fa parte del pacchetto Berlusconi, c'è poco da fare, è così, cioè, al di là dei reati, tutto quello che accade fa parte del pacchetto Berlusconi, cioè dell'anomalia generale Berlusconi, Urges, un po' è così. È una questione di punti di vista, certamente. Pacco, pacchetto, però insomma intanto ho capito che non è che però possiamo ignorare i reati. Ma lei da avvocato, questi, no, reati, come, questi reati, come questi, da avvocato, la battuta questi... mi ha raccontato un collega del PDL sulla scomparsa dei mafiosi in Italia, sa che, no, che ministro che Angelino non... Alfano si vanta tanto della campagna sua e di Maroni. Ma insomma qualche, la guerra c'è contro ottimi, loro, ottimi, no? Ma l'affermazione era proprio questo, abbiamo arrestato l'80% dei mafiosi in circolazione, sì, ma con l'altro 20% che abbiamo portato in Parlamento abbiamo fatto scomparire la mafia dall'Italia. Questo, raccontata da un collega del PDL, quindi è carino, uno del PDL è simpatico, no? Quindi, questo è il punto di vista, se non esiste mafia secondo alcune affermazioni si può anche pensare che poi sia stata spostata, più spostata che... diciamo una parte in Parlamento, esattamente, ma non si può dire chi l'ha detto, no, no, no, no, battuta, no, è una simpatica persona, traffico di che regione del sud, del sud traffico, torniamo subito per l'ultima parte della Zanzara, però Salvatore da Napoli, Giovanni da Campobasso, Carlo da Milano restano con noi, li voglio prendere assolutamente, non vi preoccupate, poi da domani riprendiamo con la solita Zanzara. Eccoci qui con la Zanzara. Zanzara da Strasburgo, le Zanzare in trasferta a Strasburgo, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, qui al Parlamento Europeo con Gian Maria, mai sbagliarsi, è Gian Maria Urges. No, ma lei non mi ha detto però qual è la che è una crasi, che cos'è Gian Maria, cos'è uno? Beh, chiaramente sta per Giovanni e per Maria. Giovanni Maria, sì, Giovanni, sì, Maria. Ma è Gian Maria proprio. Però l'originale è Gian Maria. Sì, sì, come il nome Giovanni di mio Maria. Nonno. Giovanni Maria, c'è un giornalista di Repubblica, Giovanni Maria Bello. Sì, no? Ce ne sono tanti. Che era Repubblica, adesso è all'Unità in realtà, vice direttore dell'Unità, se non sbaglio. E che però si chiama Giovanni Maria, non... invece Gian Maria è proprio l'originale. È interessante, eh? Sono tipico. Appassionato di nomi. Sì. Senta, lei nell'Italia dei Valori è corrente De Magistris o corrente di Pietro? Perché diciamo la verità, adesso lei ce lo può dire. Insomma, noi abbiamo fatto due giorni di riunione a Tivoli la settimana scorsa. Beh, deciso pure, noi abbiamo stabilito essere... che non ci sono correnti. Con un documento votato all'unanimità, questo vuol dire quindi che non ce ne sono. Ma non è che crediamo. Beh, l'unica corrente esistente è quella del partito, e il capo. Ecco, vede, però lo chiamano il capo, come lo sa che non ci sarebbe il TV senza Italia dei Valori, molti deputati del PDL chiamano Berlusconi il capo. Certo. Nell'Italia dei Valori c'è lo stesso tipo di sindrome. Ma il partito, diciamo, oggi si fa intorno alle figure, ai leader, cioè, sono tutti scritti nei simboli. Quando va a leggere sulle liste, la persona vede Casini. Bravo, Casini. Sai che io sono Casini, d'accordo. Casini, però Bersani, che vostro alleato, Di Pietro, esatto. E quindi vota Di Pietro. Bersani, che è vostro alleato, dice che la questione dei leader è superata. Una politica basata sui leader ha prodotto grandi errori, grandi sbagli, eccetera. Bisogna superarla. Lui non metterebbe nemmeno il nome sulla scheda. L'ho detto recentemente. Sì, sì, no? Sì, l'ho detto recentemente. Sono in crisi di identità quelli del PD. Quindi. Non a tutti i Ma io non penso che gli iscritti all'UDC. Vabbè, non mi ha risposto, però. Intanto non mi ha risposto. Intanto non mi ha risposto se è corrente di Pietro, ma corrente non intendo corrente. C'è un unico la corrente strutturata. Insomma, cioè, De Magistris si può aspirare a associare a Di Pietro oppure no? Se fa da bravo, sì. Che deve fare? Deve lavorare per il partito, insieme al partito, e tutti insieme dobbiamo portare avanti questo partito verso le due cifre e oltre. Dopo, quando Di Pietro si ritira, lascerà sicuramente... Quando si ritira? Lui dice in un tempo lontanissimo. Di Pietro aspira a fare un'unica cosa. Il governatore della sua regione, quindi... Ma quello però è il governatore del Molise. E lui vuole fare quello. Ah, lei dice... Di Pietro vuole fare in vecchiaia il governatore del Molise. Sul trattore? Sul trattore, naturalmente. No, vabbè, sul trattore. Anche. Nel tempo libero... Ama moltissimo. Una volta fece un collegamento con la Zanzara sul trattore, lo sai? Come no, mi ricordo. Eravamo con Luca Telese prima che... No, mi ricordo, vi seguivo. Prima degli eventi di cui tutti sono a conoscenza. Vi seguivo anche prima, No, facciamo un collegamento fantastico, io e Luca, con Di Pietro che era sul trattore a Montenero di Bisaccia. E si sentiva il rumore del trattore con Di Pietro che parlava. La trebbiatrice. Cosa meravigliosa. Di Pietro è simpaticissimo. Sì, assolutamente simpatico. Provate a non mettergli di fronte Ghedini, per il resto è simpaticissimo. Come finisce questa storia di Berlusconi, secondo lei? Cioè, lei che è avvocato, per esempio, questi reati che contestano a Berlusconi, diciamo la verità, alla fine... La ciccia c'è o no? Devo fare un attimino il serio. Dico che se la procura ha chiesto il giudizio immediato, vuol dire che ha le prove evidenti del reato. Altrimenti non si sarebbe sputtanata. Ma non lo vogliono solo sputtanare, non è una grande operazione. No, io non credo. Io ho visto ad esempio che la procura di Milano l'ha difeso quando l'ha dovuto difendere. Ha preso delle posizioni dure. Guarda, il capo della procura. Beh, mi sa che non è un po' una finta quella di Bruti Liberati. E poi gliel'hanno contestato dopo due mesi. Comunque si è assunto le sue responsabilità. Però poi era una finta. Poi sono partite alla zicco. Poi sono partite le inchieste. Mentre diceva che non c'era nulla. Nel contempo i suoi VM. Anzi, questo è curioso. Questo è l'aspetto questo curioso è molto curioso. Vabbè, sentiamo Salvatore da Napoli. Buonasera, Salvatore. Buonasera, dottor Cusani. Buonasera, deve essere molto rapido, però. Salvatore, deve essere molto rapido. Lo so che lei già segue chi non la pensa come lei, ma figuriamoci in questa circostanza. Salvatore. Ma solo per la lunga attesa, insomma, le volevo dire soltanto questo. Non so se si ricorda, una sera lei mise in discussione tutto quello che Taormina le raccontava quando già parlava della signorina Nadia Macri e delle schifezze che a suo tempo. Non mettevo in discussione, facevo delle domande, non mettevo in discussione nulla. È attendibile come un avvocato che conosce i fatti, insomma. Comunque, veniamo a noi alla puntata di stasera. Non è che... Questo Silvestri di prima che parlava, io sono Silvestri. Silvestri, sì, l'onorevole di prima, sì. Mi ha fatto venire in mente anche la serata della superfetazione del governatore Vendola, della superfetazione del bagaglino, ma sentirlo parlare a quel modo, mi rendo conto sempre di più che faccio bene da 3 legislature a non votare. Questa storia della destra e della sinistra, cazzate per illudere le persone che ci... Lei non sa distinguere, opposizione... Salvatore, mi scusi se interrompo, lei non sa distinguere tra il cabaret e poi la politica vera e propria. Qualche volta le due cose coincidono. Devo dire la verità. Lei lo ha sentito cosa ha detto prima? Ha detto le persone non debbono leggere i giornali. Lei da studio, perché non gli ha chiesto perché li finanziate i giornali? Noi a scuola stiamo a dire agli studenti. Quanto è serio lei, Salvatore? Quanto è serio? Però devo dare la linea a Cristiano dalla provincia di Vicenza. Bravo. Cristiano dalla provincia di Vicenza, grazie. Cristiano, buonasera. Pronto, Cruciani? Dica, Cristiano. Buonasera. Su con la vita. Sono bravissimo, Cruciani. Prima lei ha fatto una domanda nel caso nel quale Berlusconi rimanesse al governo e dovesse eventualmente fare una visita istituzionale al Papa, no? Sì, l'ha detto Parenzo, in realtà. Sì, è uguale. Scusa? Sì, prego, sì. Prego, vada avanti. Avete detto, c'era prima l'onorevole Mastella, diceva appunto sì, che eventualmente sì, come avrebbe fatto Berlusconi ad affrontare il Papa, no? Sì. Ma io, diciamo così, non saprei dire quali di due. Rimandiamo a domani questo ragionamento che mi sembra un po' troppo lungo. Onorevole Uggias, vabbè, lei sarà d'accordo sul fatto che Berlusconi si deve dimettere, mi pare scontato, no? Però come finisce? Se c'è un limite alla decenza, direi di sì. Ma lo farà oppure resisterà, come ha detto Mastella? Io lo conosco, resisterà perché l'uomo è fatto così. Tutti i regimi cadono, io non ho mai visto. Questo è un regime, non è un regime. Non facciate come Di Pietro, non è un regime. Io direi di sì, cioè c'è tutta una situazione in cui il telegiornale è invaso da Berlusconi, signorini che addirittura appare sul TG1, si riflettono uno con l'altro. Il regime punto. No, vi prego, grazie. Ci siamo, grazie, il regime. Non finiamo col regime, che non c'è il regime, su, non c'è il regime.